è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Inutile nasconderci, caro Parenzo, la notizia del giorno è quella data pochi istanti fa dal segretario del PDL, anche se Berlusconi ha detto che non bisogna più pronunciare questo nome. Berlusconi ha detto ai suoi: questo nome non va più pronunciato. Bisogna rifare tutto. Comunque la notizia è questa: il segretario del PDL, cioè il partito che, di cui non bisogna più pronunciare il nome secondo Berlusconi, ha detto, per unire il centrodestra, sto parlando del signor Alfano, per unire il centrodestra, Berlusconi è pronto a non ricandidarsi, è disponibile a un passo indietro. Ci credete? Credi? Quante volte Berlusconi ha prospettato di fare un passo indietro? Ha pensato di fare un passo indietro? Perché però ho messo la canzone di Heidi? È la prova provata che i deputati, i senatori sono troppi, sono tantissimi. Sentite quale interrogazione ha presentato il signor Scilipotti. No. Signor Mimmo Scilipotti, no. Ti prego, ascoltami e resta calmo. Mi fai incazzare già quando hai pronunciato quel nome. Perché? Lunedì 24 settembre 2012, interrogazione presentata alla Camera al ministro delle politiche agricole nonché al ministro della salute. Nel comune di Faicchio, in provincia di Benevento. Nel comune di? Faicchio, provincia di Benevento, è un'interrogazione parlamentare. Beh, ma già mi incazzo, però. Aspetta, tanto. Nel comune di Faicchio, in provincia di Benevento, da diversi anni vi è la manifestazione di un intenso fenomeno di migrazione incontrollata di animali e di pascolo abusivo da parte del signor Pasqualino Onofrio. Di chi? Del signor Pasqualino Onofrio. Ma chi è sta gente? Aspetta, proprietario di qualche migliaio di capre. A seguito di ciò vi è sorto un vero e proprio problema di natura igienico-sanitario che, specialmente nei periodi estivi, investe il centro storico della frazione di Fontanavecchia e la frazione di Massa di Faicchio. Questo è arrivato in Parlamento, il passaggio di oltre 1000 capre in un comune in provincia di Benevento. Allora, resta da capire perché Scilipotti presenta in Parlamento provvedimenti di questo tipo. No, ma poi chi è questo signore? Come si chiama? Non lo so. Chi dici? Pasqualino, cosa hai detto? Onofrio, Pasqualino Onofrio, è il pastore qui, che apporta 1000 pecore in giro e ostacola la circolazione. Secondo Scilipotti, di questo problema bisogna che se ne occupi il Parlamento, aiutami tu! Ma cosa c'è da fare? Ma chiamate subito carabinieri, polizia, forze dell'ordine, internatelo! Allora, l'assessore della Lombardia, più tardi lo sentiremo, Cattaneo, ormai è diventato famoso, forse si è rovinato la carriera politica, il quale ha detto che siccome diminuiscono il suo stipendio non ce la farà a resistere con il mutuo, le spese, eccetera, eccetera. Una casa di 14 vani, 1300 euro al mese di mutuo. Cattaneo, mi sputerei in faccia da solo per quello che ho detto. Ho dovuto dire questa cosa per la quale mi sputerei in faccia da solo, perché voglio ricordare che se facciamo a meno della politica stiamo peggio tutti, ma della buona politica, e ce n'è tanta, bisogna individuarla e bisogna sostenerla. Ricordate De Romanis, quello delle feste con la faccia, con le maschere da a maiale? Te lo ricordi, Parenzo? Come no, lo statista, certo, il giovane consigliere regionale, lo statista. Ma adesso il lo statista del Lazio. Lo Churchill del Lazio, non cominciare a pigliare per in giro la gente così. Il Churchill del Lazio. Non mi ricandido, ha detto, non mi ricandido. Lei si ricandiderà. Io ho deciso di non ricandidarmi. Perché? Così, sì, no, perché? L'applauso lanciato dal vostro studio, che non è dallo studio ma dal capo delle comparse, scusi, non capisco se era il non si ricambia, scusate. Beh, era un gesto di soddisfazione da parte di Liberazione, da parte del pubblico di Domenica Live, ospite ieri pomeriggio di Alessio Vinci. Andiamo a sinistra, anche se ci sarebbe da far sentire il signor Calderoli, Calderoli, ieri sera alla festa dei popoli padani, dove vendevano o davano in omaggio, non lo so, una bambolina tipo Cicciobello, caro Parenzo. Una bambolina vestita da padana, ti rendi conto o no? Pare sia andata a Ruba. Di noia morirà. una cosa da horror, una cosa che più trash non si può. Ma non la compreresti in Parlamento? No, abbi pazienza, cioè, no, comprare per mia figlia che cosa? La bambolina? La bambolina padana, certo. Alla festa dei popoli padani, data in omaggio, o chissà quanto costava. Bah. La bambola, la padanina, detta la padanina. La patatina? La padanina, non fare il cretino, la padanina. La padanina. Potrà chiamarsi anche la patatina padana, perché no? Dicono che a sinistra va tutto bene, che state ritrovate un'armonia. Non si direbbe, perché oggi, per esempio, il signor Fassina, sai chi è, no? Il responsabile economico del Partito Democratico, uomo di Bersani, ha detto che Renzi copia il programma. Ma senti quello che ha detto durante la famosa assemblea sulle regole. Ma copia il programma di chi? Se loro dicono che il programma, esatto, se loro dicono che in realtà la pensa in maniera molto diversa, una parte del programma di Renzi sarebbe copiato dal programma del Partito Democratico. Ma il Partito Democratico, cioè il segretario, ma Renzi fa parte del Partito Democratico, è un cortocircuito pazzesco. Bindi, Rosi Bindi contro Renzi è da sempre da sentire, eh. Sì. È berlusconiano e grillesco, senti. Allora, non è che noi abbiamo paura. Io credo che il concetto vero di cambiamento, di rinnovamento della politica oggi, anche in relazione a quello che sta accadendo, sia un concetto molto più profondo, molto meno berlusconiano e grillesco di quello che in qualche modo Renzi con la faccia pulita intende. Bene, abbiamo molte cose da farvi sentire, ma direi abbiamo già un ospite pronto. L'ultima è Laminetti, l'ultima è Laminetti. Ripeto, la notizia del giorno è Alfano che dice: per unire il centrodestra Berlusconi pronto a non ricandidarsi. Vedremo, abbiamo anche l'ospite giusto per questo. Minetti, la frase clou è questa: la politica non è fatta da persone preparatissime. Sentiamo. Prima di tutto, secondo me, bisogna tenere in considerazione che la politica non deve essere per forza di persone che sono preparatissime, cioè la politica rappresenta tutte le categorie, non è che deve rappresentare soltanto una taluna categoria. E abbiamo con noi all'800240024 il sindaco Spazzino, Gianni Alemanno, buonasera. Eccoci qua, ma qualcuno l'accusa, caro sindaco, di avere buttato dentro quei cassonetti di tutto, di non avere fatto la raccolta differenziata. Tenete. Ma insomma, adesso scusate l'espressione, ma bisogna essere cretini, quando mai esiste la raccolta differenziata della roba che viene buttata per strada? Cioè la fanno le famiglie, dice lei? La fanno la famiglia, sono i rifiuti solidi urbani, che quello che viene messo per in mezzo alla strada viene raccolto in tutti i vari secchioni, poi dai secchioni si fa. Pure lei poteva stare un po' attento, no? Tra bottiglie. Cioè, mica ci sono i secchioni per il vetro, per la plastica o altre cose di questo tipo. Vabbè, Telese, sei un cretino, te l'ha detto Alemanno, no? Questa critica che hai fatto. Questo lei dice. Sì, Alemanno, due punti, Telese è un cretino. Vabbè, adesso no, lo esageriamo. Adesso esageriamo, adesso è una cosa da cretini. Poi Telese è una persona intelligentissima. Io mi distorto. Allora, Alemanno, però la notizia del giorno è questa. È una buona notizia questa qua che ha dato Alfano? Sì, beh, direi che è una notizia importante, perché una buona notizia. Bisogna cercare di guardare al futuro e superare tante, vicissitudini. Fa chiarezza questa cosa. Come? Fa chiarezza questa cosa che Berlusconi sarebbe. Ma lei ci crede fino in fondo oppure no? Oppure è una berlusconata come al solito? Dunque, io credo che lui ci stia pensando già da parecchio tempo. Io ci ho parlato in varie occasioni, ho visto che lui stava riflettendo. Credo che Alfano non sia persona che mette in bocca a Berlusconi cose diverse da quelle che Berlusconi pensa. Dunque, una buona notizia, una buona notizia. Una notizia che riapre i giochi nel centrodestra e ci che permette fa chiarezza. Di fare un'impressione verso il futuro. Fa chiarezza dunque, finalmente, no? Fa chiarezza. Cioè, finalmente, cioè, diciamo la verità adesso, Alemanno, non è che le vogliamo far dire quello che lei non vuole dire, però il fatto che Berlusconi non si ricandidi o sembra non volersi ricandidare è una cosa che fa bene al centrodestra. È una cosa che serve al centrodestra per guardare al futuro. Senza... Voglio dire, col massimo rispetto per Berlusconi, certo. con la consapevolezza di tutti quanti che però è meglio così. Non esisteva il centrodestra. Però è meglio così. Beh, si tratta di immaginare una persona più giovane, di immaginare una persona che possa essere più in grado di unificare le diverse anime del centrodestra. Un Renzi del centrodestra, un Renzi. Diciamo. C'è cioè magari un po' più... Dire, di contenuti rispetto a quello che ha reso. Però insomma, la tipologia è quella, no? Cioè individuare una persona più giovane, eccetera. Esatto. Senta, ma Berlusconi che può fare a questo punto? Il padre nobile, il presidente di una fondazione, il senatore a vita, il nonno, che deve fare? lui deve fare quello che si sente e che ritiene. Quindi da questo punto di vista ci manca pure che gli diciamo cosa è che una volta lei lo disse, meglio sarebbe se diventasse, no, capo di una fondazione. Sì, vabbè, quelle sono le cose che si dicono sempre. La realtà è che deve essere chiaro il messaggio che noi nella interlocuzione fra leader e nella ricerca di quello che può essere il candidato del centrodestra possiamo portare avanti Alfano, altre persone che possono far nascere una confluenza di tipo diverso, cioè che lui non è più in partita rispetto a quel ruolo, poi tutti gli altri ruoli sono disponibili. Benissimo, non è più in partita, ma questo è importante, sapere almeno, è un punto fermo, lei dice. Poi, no? Poi c'è un altro aspetto. Qual è l'altro aspetto? Noi vorremmo che tutto questo non nasca, cioè il nuovo nome non nasca in un discorso chiuso nei giochi di palazzo, altre cose, ma esca fuori con le primarie, un processo di primarie, qualcosa che sia trasparente, che coinvolga la gente, insomma. Io invidio molto queste primarie del centro-sinistra, che magari se la meno, se la suonano, però almeno sembra, insomma, c'è anche un po' di agonismo in mezzo. Io no? Sono d'accordo con lei, cioè lei ha detto io invidio questo processo che sta facendo il centro-sinistra, perché certo, se le menano, ma viva Dio, esce fuori, insomma, viva Dio, no? Viva Dio che uno, cioè anche là si dice si stanno scannando, sì d'accordo, però è vero che magari una lotta tra leadership, spesso tra potentati, tra gerarchie, va bene, insomma, sono linguaggi che si usano nella politica, però insomma ci sono anche linee politiche molto diverse, no? Esatto, una cosa che vince Bersani, una cosa che vince Renzi. Io credo, adesso obiettivamente non mi fa piacere, però ovviamente credo che questa cosa il centro-sinistra alla fine uscirà rafforzato. E vi ha dato una lezione da questo punto di vista di democrazia, si può dire o no? In questi anni. La democrazia da parte di ex post-comunisti magari un po' dura. Però voglio dire, diciamo che sicuramente è una lezione di competizione. Noi che dovremmo essere lo schieramento della libertà, della competizione, della sfida, eccetera, dobbiamo recuperare da questo punto. Sostanzialmente dovremmo non essere da meno, insomma. Loro sono sempre stati l'apparato e fanno le primarie. Noi che dovremmo essere il partito della libertà, eccetera, non le facciamo. Siamo stati il partito dell'uomo solo al comando, questo bisogna dirlo. Appunto, adesso l'uomo solo al comando ha detto che lascia lo scettro e allora si lascia lo scelto, si apre il grande gioco, no? Beh, insomma, mi sembra particolarmente pimpante, però, Parenzo. Abbiamo il traffico, poi torniamo subito col sindaco di Roma, Gianni Alemanno, 800 24 00 24. Potete vederlo su internet, si è messo a pulire le strade di Roma perché qualcuno gli ha rimproverato. Secondo me, io adesso non ho particolari simpatie, ma nemmeno antipatie, cioè non ho pregiudizi, però sinceramente volere, poi le cose spesso sono inapplicabili dal punto di vista delle ordinanze, volere che la città sia più ordinata non significa fare le multe perché uno c'ha il panino in mano, significa semplicemente che se voler pulire la città, poi uno può non riuscirci, le ordinanze possono essere anche inapplicabili, però non è una cosa folle, eh. Siamo col sindaco di Roma Gianni Alemanno in apertura della Zanzara di questa settimana. Parenzo che è in collegamento invece da Siena, siamo divisi a Milano, Alemanno a Roma naturalmente, Parenzo in provincia di Siena. E voglio deliziare Alemanno con una voce che lui conosce bene, che è quella del ministro della porcata, il signor Calderoli, dalla festa dei popoli padani. Tanto per ricordargli, insomma, che la Lega esiste ancora, e non è che ci sia solo la Lega nuova di Maroni, esistono ancora certi toni, certe cose. Calderoli, bastava una ragazza con le tette grosse, ero un eccetera eccetera, sentiamo. Perché io quando io ho incontrato la Lega proprio a metà degli anni che oggi, e devo dire che era un bel coglione, che pensava a conto in banca, la macchina, la fidanzata, basta che avesse, fosse più alto, avesse le tette più grosse, andava bene comunque. Senza pensare, lo dico oggi, allora non lo pensavo, che si può mettere un po' di silicone nelle tette, ma il silicone in zucca non te lo mette mai nessuno e la scelta va fatta in maniera diversa. Magari su questo Alemanno potrebbe essere paradossalmente d'accordo. Abbiamo anche dei pezzi migliori. Senta, la telefonata Alfano alla Minetti la deve fare o non la deve fare questa telefonata per chiedere le dimissioni? Da mo, io sono stato il primo a porre il problema l'anno scorso addirittura. Sì. La Mantovani, il coordinatore regionale del PDL, si indignò, se l'ha presa addirittura con mia moglie, insomma, sì, me lo ricordo, anche qua la Zanzara, sì. E io adesso, per carità, adesso non si tratta mai di fare il capro espiatorio, però insomma qualche segnalino di svolta, ma si vede darlo. Cioè lo deve fare Alfano, deve chiamare la Minetti e chiedere le dimissioni. Se vuole gli diamo il numero, noi ce l'abbiamo. Non ce l'ha forse, lei ce l'ha il numero. Come mai ce l'avete il numero della Minetti, scusa? E perché ogni tanto l'abbiamo chiamata per intervistarla? Bravi. Perché lei che pensava, scusi, interesse professionale, mi ha sentito. No, ma anche poteva anche non essere professionale, una bella ragazza, uno può anche chiedere di uscire, insomma, lei non uscirebbe insieme alla Minetti, scusi. No, per carità. Lei farebbe una serata con la Minetti o no? No, però posso capire chi ci pensa. È più bella che brava, questo bisogna dire, o no? Non lo so, dai, adesso mica ci dobbiamo mettere a offendere una signora, il problema è il modo con cui questa signora è arrivata a fare il consiglio giornale. Ecco, ma lo vogliamo dire una volta, lo vogliamo dire una volta per tutte, la responsabilità di avere portato la Minetti in politica di Berlusconi, diciamolo una volta per tutte. Sì, forse, non lo so. Ma come no, sì, Alemanno, abbia un po' di coraggio, adesso sì, siamo... cioè, lo dicono ormai, lo dicono apertamente tutti, c'è la responsabilità che ci ha levato anche un sacco di voti e di... Però possiamo dare la colpa a Vendola volendo. No, non c'è bene Vendola, il fatto che stava in lista bloccata, poi in lista bloccata... Ma chi ce l'ha messa in quella lista, Alemanno? Qualcuno l'avrà messa e qualcuno se l'è presa, insomma, quindi vogliamo fare... 50-50 Berlusconi... Lo scarica barile, dai, cioè se io c'ho una persona... in vista bloccata c'è anche le mie responsabilità, quindi adesso non cioè, facciamo queste ho capito cose. Ma la responsabilità anche qua bisogna guardare avanti, voltiamo pagina. Alfano faccia la telefonata e Alfano faccia la telefonata, faccia sta telefonata su. È contento che sua moglie abbia rinunciato alla candidatura e alla regione? Invece ha fatto una bella scelta, oppure è stata una sua scelta, non gliel'ha chiesto nessuno, non c'era nessun motivo, però lei è rimasta abbastanza disgustata da questa esperienza e ha detto basta così, grazie. Lei non l'ha consigliata, no? No. Mia moglie fa polia quando c'aveva 14 anni, quindi sono, non dico quanti anni che fa polia, ma sono tanti, e quindi sa ragionare con la sua testa. Certe volte consigli da lei a me, non io a lei. Senta, ma lei se fosse oggi in Parlamento, lo voterebbe sto DDL anticorruzione, che i suoi colleghi di partito sono lì ogni giorno che dicono no. Aggiungere emendamenti, modifiche, salva Rubi di qui, salva Rubi di là, è da votare subito o no? Allora, è da votare subito, non c'è ecco. Bravo. Cioè, voglio dire, adesso, a parte tutto, poi diventano anche fatti simbolici, no? Non credo che questo decreto risolva tutto il problema. Che noi abbiamo di fronte della corruzione, però questi provvedimenti hanno veramente un carattere simbolico. Per carità, delle cose da aggiustare ci stanno, però non deve essere queste cose da aggiustare un motivo di ulteriore rinvio, perché la gente aspetta questo fatto, ci sta un'agitazione profonda. Io credo che il PDL debba dare il segnale di uscire da questa Ecco, per esempio, la incandidabilità dei condannati, per lei è per quelli in via definitiva o bisogna andare oltre? Bisogna mettere magari anche quelli in primo grado, eccetera? Guardi, la Costituzione ci dica con chiarezza che fino a che non c'è il terzo grado, non c'è la sentenza definitiva, una persona non è definitiva. Però? E lo dobbiamo rispettare da questo punto di vista. Dopodiché c'è la politica, no? Cioè ognuno nel momento in cui mette una persona in lista poi se ne assume le responsabilità. Cioè comunque quelli in via definitiva voi anche non li ricandidate? Cioè Dell'Utri, Dell'Utri si può ricandidare o no? Deve essere per legge. Dell'Utri va ricandidato? Il resto è un problema di responsabilità e di etica da parte del partito. Dell'Utri va ricandidato, per fare un esempio chiaro, Alemanno, lei lo ricandiderebbe Dell'Utri nella prossima legislatura o no? Guarda, francamente da questo punto di vista non mi so esprimere, perché è un tema che non ho mai trattato. Insomma, le cose ci sono però, si leggono, cioè le sentenze ci sono. Però siamo sempre al tema, è stato condannato in via definitiva, mi pare ancora di no. Senta una cosa, ma a suo figlio uno scappellotto l'ha dato oppure semplicemente l'ha rimproverato per quella foto col braccio teso? Dunque, mio figlio, benché ci abbia 17 anni, è circa più alto di me di circa 10-15 centimetri, lo scappellotto per fare un saltino. A parte questo, ci ho parlato. Cioè, è una cosa grave oppure è un peccatuccio? Detto, si può giocare, si può scherzare. Quando si gioca e si scherza in viaggio con gli amici, però bisogna lasciar perdere i simboli politici, soprattutto quando evocano antichi ricordi. Quindi gli ho detto, divertiti quanto ti pare, però sappia sempre avere i suoi limiti. Detto questo, però, ho anche detto alla signora Annunziata che si doveva vergognare. Io quello a pescare un ragazzo letto, di 17 anni. Vabbè, quelli fanno il loro mestiere. Fa un gesto era su Facebook, in prima pagina dei siti, è ridicolo, è vergognoso, è una cosa indegna per una giornalista così di livello come la Luce Annunziata. Ma era su Facebook, era una foto pubblica. Vabbè, lasciamo perdere perché stiamo chiudendo. Sindaco, una cosa però di calcio gliela voglio chiedere, perché queste cose sono cose che fanno sempre, attirano sempre le persone. In questa diatriba che c'è a Roma tra Zeman e De Rossi, lei con chi sta? Mi dicono solo la parola. Se dovesse scegliere via Zeman o via De Rossi, chi sceglierebbe? De Rossi tutta la vita. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray antizanzara mi son messo il piede, ma lei gira sempre intorno a me e balli un twist, e balli un twist. La zanzara. Ecco, Eccoci qui, 19:18, 800 24 00 24. Caro Parenzo, nel giorno in cui pare che Berlusconi sia disposto a non ricandidarsi, che sembra una notizia nuova, ma in realtà dovrebbe essere una notizia, insomma, no? Già metabolizzata. Che dici tu? Dove sei? Che stai facendo? Sento rumori strani. Che stai facendo? No, sto facendo da mangiare a mia figlia un po' di formaggio e salmone. Dimmi, cazzo. Formaggio e salmone? Sì. Ma insieme, scusa, non ho capito. No, le do, faccio prima delle fettine di salmone affumicato con dei crostini. Sì. Il pane l'ho tagliato, l'ho messo nel forno. Sì. Lo facciamo lievemente. Lavati le mani, amore mio, però, perché nei paesi occidentali ci si lava le mani. Sì, sì. Ecco. Nell'Occidente ci si lava le mani. Allora, e questa è la cosa. Sì. E poi sì. Vabbè, intanto falle ascoltare un po' di Minetti, va. Mi merito sì. Il posto in consiglio. Mi merito il posto in consiglio, senti. Una volta col bacio e poi all'altro. Lei ci si merita questo posto in consiglio regionale? A mio avviso sì. Perché? Perché a mio avviso sì. Perché comunque sono una giovane con tanta voglia di fare. Umiltà, piano piano sto cercando di imparare, sto cercando di portare quelle che secondo me sono le tematiche che stanno a cuore a me e ai cittadini. Dal soggiorno alla cucina, dal giardino alla cantina, l'ho inseguita, ti ho inseguita, ora sei qui fra le mie dita. I titoli del TG3 li abbiamo mandati? Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Monti, l'Italia dal meglio di sé, grande prova di coesione politica. Domani le misure sulla legge di stabilità, il governo convoca le parti sociali. Fornero contro la proposta sugli esodati, condivisa da maggioranza e opposizione. Riforma pensioni a rischio, non si può compromettere la stabilità dei conti. Il Manetti è funzionario al Comune di Milano durante la giunta Moratti, assieme ad altri tre avrebbe lucrato sulle vacanze in colonia dei bambini. Per unire il centrodestra, Berlusconi pronto a non ricandidarsi, dice Alfano, e fa appello a Casini. Sei chiamato a fare una scelta per l'area dei moderati, alternativa alla sinistra. A TG3 i sondaggi su cosa pensano gli italiani sull'evolversi del quadro politico, i dati sul confronto Bersani-Renzi alle primarie del centrosinistra, le difficoltà del PDL. Hugo Chavez è stato eletto per la quarta volta consecutiva presidente del Venezuela, più della metà degli elettori ha votato per lui, è in carica dal 1999. L'alto forno 1 dell'Ilva di Taranto sarà spento entro la fine di novembre. Questo annuncio dato dall'azienda nelle ore in cui scatta il conto alla rovescia voluto dalla procura. Si aprono i microfoni della Zanzara. Si aprono, caro Parenzolo. Si aprono. Tua figlia perché protesta? Perché piange? Non vuole che parli al telefono, forse? No, protestava perché aveva un po' di fame, perché sono 7:20, voleva mangiare, poi stasera. Va bene, allora, Giovanni da Milano, no, buonasera. Sono tuoi, Giovanni? Beh, no, ma sono affari miei, se sento una voce là mi preoccupo. Giovanni e da Milano. E anche di chi ci ascolta. Andiamo avanti con le nostre battaglie. Giovanni da Milano. Sì. Senta, buonasera. Sì. Io volevo intervenire sul Cattaneo, quello che quel signore che ieri sera a live ha parlato con Vinci. Sì, allora, sì. Questo è l'assessore della regione Lombardia. Sì, quello che ha detto che se gli decurtano lo stipendio non sa come arrivare a fine mese, perché ha le quote, le rate del mutuo, le spese. Perché lui aveva impostato la sua vita effettivamente su 8.000 euro al mese, e questo un attimino lo capisco. Però quello che volevo dire io è che questo signor Cattaneo effettivamente è uno di quei pochi o tanti, non lo so, che nella regione Lombardia sta lavorando benino. Allora? Ha lavorato bene. Questo non lo so, questo lo decidono gli elettori se uno lavora bene o no. No, ecco, comunque così, non è che una. Però volevo dire, questo fa trasparire proprio che questi signori sono pagati come tutti noi, alla mattina si devono alzare e fare il proprio dovere bene. Se lo fanno bene, non devono essere chiamati alla radio, alla televisione o essere acclamati. È normale che facciano il lavoro bene. Allora? E siamo ben contenti. Lui invece ha detto al Vinci: lei mi ha chiamato qui non per i 154 delle ferrovie. Ma non fa bene, ma uno perché lo deve chiamare? Ma per fare quella roba lì, per dire quanto sono stati bravi, quanto hanno fatto in Lombardia, hanno a disposizione 1.000 microfoni. Bravissimo. 2.000 microfoni, le televisioni locali, le televisioni regionali, eccetera, eccetera. Grazie, Giovanni. Francesco da Piacenza, buonasera. Francesco? Francesco? Grazie. Francesco? Sono io, colpo di scena. Ci scusi, ci, mattine, dai. Ci perdoni se sta facendo qualcosa, no? Chiedo venia. Ma no, io vorrei difendere la spada tratta la Minetti. Ma guardate la miseria, ma mi butto nel fuoco per la Minetti. In che senso, scusi, si butta nel fuoco? Fantasia, siamo in pochi. Ma no, non è un discorso. Ma non faccia lo spiritoso, Francesco. Che vuol dire che non ha capito nessuno, su? Il discorso è semplicissimo. Lì c'è tantissima gente, è lì, solo esclusivamente perché è lì a fare quello che gli viene detto. Da chi è stato scelto? È semplicissimo. E ci scandalizziamo con la Minetti perché è buona, solo per quello. Perché è buona in che senso? Perché è buona in che senso? Perché è una ragazza per bene, via. Perché è fisicamente attraente. E allora ci scandalizziamo solo per quello. Lei dice ci sono tante della fame della gente. Ho capito, ci sono tante altre Minetti nominate di cui non ci scandalizziamo, ci scandalizziamo solo di lei perché è bella, prosperosa, eccetera, eccetera. Ci sono tantissimi uomini che non sono né belli né divertenti come per tante altre donne. Se la Minetti pesasse 120 kg, il problema non sussisterebbe. Sì, ma il punto è che lì. Il punto è che se pesasse 120 kg. Non sarebbe lì. Non sarebbe lì. Questo è il punto. Grazie, Francesco. Alberto da Padova. Alberto da Padova, buonasera. Sì, buonasera a lei. Vada. Allora, io vorrei tornare al discorso di Alemanno. Io sono rimasto sinceramente un po' libito, nel senso. Il figlio, il braccio teso, cose varie, che lei giustamente ha detto male, ha ripreso il figlio, eccetera. Ma non dimentichiamoci, questa gente qua è andata via 30 anni col braccio teso. Cioè, io non riesco a capire Alemanno come possa spiegare al figlio dove arriva il gioco, dove non arriva. Cioè, la politica non è un gioco. Sono dei valori in cui lui ha creduto per 30 anni e che adesso sembra quasi... Posso dire una cosa? Questa roba qui è veramente una stupidaggine sesquipedale. Cioè, è veramente una stronzata. C'è un ragazzino che ha fatto il saluto romano e probabilmente non sa nemmeno che cos'è il saluto romano, che cosa, che cosa è stato per tanti anni. Lo sa in famiglia, diciamo. Ma sì, lo saprà, ma non sa bene il significato a 17 anni, eccetera. Beh, anche il nonno qualcosa sapeva, Sì, ma con gli amici. Avrà fatto uno scherzo con gli amici, eccetera. Non c'è niente da il problema è un altro, che il figlio 17enne, il signor Manfredi Alemanno, del sindaco di Roma, si deve rendere conto che è il figlio del sindaco e che certe cose, anche se uno può pensare di essere un pizzichino nostalgico per certi aspetti, come dire, goliardici del fascismo o del ventennio, magari li fa in un circolo chiuso con gli amichetti e non li fa in pubblico, in una spiaggia, eccetera, eccetera. Perché è il figlio del sindaco. Poi uno può fare quello che vuole, cioè nella vita, può dire io sono tra quelli, pur essendo antifascista la grandissima, che toglierebbe queste cose sulla ricostituzione del partito fascista. No, ma chi se ne frega, i reati, l'apologia del fascismo, tutte stronzate che non servono a nulla. La democrazia si deve difendere. Ma non servono a nulla queste stronzate, dai, su, questi reati non servono a nulla, tant'è che hanno condannato pochissima gente e soprattutto, come vedremo più avanti nella puntata della Zanzara, degli emeriti imbecilli, punto e basta, che non sono assolutamente un pericolo per la nazione. Ah, c'è qualcuno che l'ha condannato? Sì, poi sentiremo più avanti, caro Parenzo. È con noi uno che ha detto che si sputerebbe in faccia, Raffaele Cattaneo, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani, buonasera. Come sta? Come sta? Perché si è rovinato la carriera politica in questo modo, lei? Questa è proprio la domanda a cui bisogna rispondere. Perché se uno ma se l'è rovinata, no? Se l'è rovinata un po'. Io credo di no, però o sono improvvisamente rincretinito o c'è qualche cosa di importante che voglio dire. E che nel modo pacato, politically correct, eccetera, con cui l'ho sempre detto, non è mai passato. Perché vedi, lei mi chiama stasera perché io ho fatto questa dirompente provocazione. Beh, l'abbiamo già chiamata la sera stessa. Mi ha chiamato venerdì proprio per lo stesso motivo. Sì. Ma quando in Lombardia io, facevo inaugurare con 8 mesi di anticipo e senza incremento di costi la terza corsia della Milano-Como, non mi ha chiamato nessuno. Non è vero, Cattaneo, questo non è vero, perché voi avete a disposizione, lei lo sa benissimo, non sto parlando di fondi strani, eccetera. Voi per pubblicizzare quello che fate, giustamente, in Lombardia, cioè inaugurazione di strade, i lavori, eccetera, avete a disposizione quello che volete. Io dico quello di cui parlano i media. Ma i media parlano anche delle sue inaugurazioni, non si preoccupi. Devo dire, io però, è un fatto, io sono stato chiamato da lei questa sera per questa provocazione. Ma noi ci occupiamo di cose nazionali, non è che mi occupo dell'inaugurazione della breve mia. Questo è il tema, vedete, lei ritiene che quello che fanno gli amministratori che lavorano nelle regioni e che ritengono di essere disponibili a farsi misurare sul loro lavoro non abbia nessun diritto di visibilità. Ma come non ha diritto di visibilità? Ha molto diritto di visibilità, tant'è che avete tutta la visibilità possibile e immaginabile per quello che fate alla regione. Giornali locali, cronache locali, televisioni locali, ma di che parliamo? Cioè, tutto quello che volete avete. Andate ospiti, siete ospiti un giorno sì e l'altro pure di tutte le televisioni locali che volete. I giornali locali riportano le vostre dichiarazioni. A più di questo, che cosa volete? Non è vero che quello che lei fa come parliamo del fatto che quello che passa, che buca la cortina dei media nazionali e della storia delle regioni, solo ciò che è cattiva politica. Ma certo, ma è normale che sia così. Male che sia così, mi consenta di discuterlo. Ma no, io ho fatto questa provocazione perché vorrei poter dire che nelle regioni ci sono anche politici, non solo io. Ma questo nessuno lo mette in dubbio. Beh, come nessuno lo mette in dubbio? Non è affatto vero. Ma come no? Guardi che la più frequente risposta alla mia provocazione insieme agli insulti è vai a lavorare. Vabbè, ma quello lasci perdere. Lavoro e politica sono due fatti inconciliabili. Ma lei ha detto una cosa grossa. È uno simolo, lei è uno quello, quello che le ha detto è una cosa talmente grossa che ha provocato reazioni esasperate. Eccoci qui, la Zanzara 19:36. Caro Parenzo, il collegamento da Siena. Puntata che si preannuncia memorabile. Cari ascoltatori, restate qui incollati perché dopo vi sveleremo chi è stato condannato per un reato pazzesco, un reato che non si applica più, un personaggio che voi conoscete bene, che voi avete conosciuto nei suoi duelli memorabili con Parenzo. Restate lì incollati, godo alla condanna, godo, restate lì incollati alla radio. Io però vorrei sapere anche, tutto questo lo scopriremo più avanti, chi è questo signore da cui è scaturita l'interrogazione di Scilipoti. Bisogna tagliare i deputati, ridurli alla metà, i senatori anche, il signor Pasqualino Onofrio. Ripeto, un'interrogazione parlamentare alla Camera, consegnata a mano ai commessi della Camera, distribuita online, recita in questo modo: nel comune di Faicchio, in provincia di Benevento, da diversi anni vi è la manifestazione di un intenso fenomeno di migrazione incontrollata di animali e di pascolo abusivo da parte del signor Pasqualino Onofrio, proprietario di qualche migliaio di capre. Inizia così l'interrogazione di Scilipoti, che dunque vuole sapere perché. Chiede l'intervento del ministro delle politiche agricole e del ministro della salute per impedire che un signore che si chiama Pasqualino Onofrio porti le sue capre, le sue pecore in giro per le città del Beneventano. Non ce la faccio più. Siamo con Raffaele Cattaneo, assessore alle infrastrutture e alla mobilità della regione Lombardia, che insomma l'ha fatta grossa. Ha detto quello che pensava sull'ipotesi di una riduzione del suo stipendio. Cioè, lui dice in sostanza che con la cifra che era stabilita all'inizio della legislatura, chiamiamola così, la cifra che lui pensava di incassare ancora per diversi anni, avrebbe difficoltà a pagare per esempio il mutuo della casa. Allora io chiedo a Cattaneo questa cosa qui. Scusi, però non è che c'è la sensazione, che voi avete la sensazione di essere eterni, cioè che il vostro posto è talmente inamovibile da crearvi delle condizioni, da fare dei mutui, insomma, da avere uno stile di vita che insomma corrisponde a quello che non è uno stipendio per l'eternità. Ma guardi che io il mutuo l'ho fatto quando facevo il dirigente, Cruciani, quindi prima di mettermi a far politica. E il problema non è il mio stipendio. Spero che si sia capito che io questa provocazione non l'ho fatta per difendere lo stipendio. Prenda la cornetta però, Cattaneo, perché sennò in viva voce non si sente niente. Ho detto che questa provocazione non l'ho mica fatta per difendere il mio stipendio, spero che si sia capito. Il mio stipendio è l'ultimo dei problemi. Se io avessi in mente i soldi, avrei fatto il dirigente e già guadagnavo di più prima. Avrei accettato le proposte che ho avuto nel privato, che mi avrebbero fatto guadagnare di più. Io voglio difendere il merito in politica. Io non penso come la Minetti che in politica ci debbano andare quelli che non sono preparati. Credo che ci debbano andare quelli che sono capaci e sono disponibili a farsi. E perché lei non ha mai alzato perché non ha mai detto nulla sulla Minetti, dato che è suo collega? È vero che non ho mai detto nulla, ma vede che no, all'inizio, non dopo, ma non dopo. Lo so che le ha detto delle cose, ma negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, non all'inizio di questa vicenda. Guardi, io è dall'inizio che dico che la Minetti corrisponde al modo con cui io non selezionerei mai la classe dirigente politica. Io sono stato eletto nel listino nel 2005 e ho chiesto con forza di poter essere eletto dalla gente sul territorio, con le preferenze e misurando il lavoro che ho fatto. Insomma, secondo me lei ha contato troppo su certe entrate che non sono fisse. Se uno decide adesso di tagliare lo stipendio. stipendio? Farò i sacrifici, Cruciani, come fanno tutti gli italiani. Su, sono un privilegiato e lo resterò anche dopo. E mi creda, l'indennità che avevamo nella scorsa legislatura era sopra i 10.000 euro. Adesso la mia, ho pubblicato lo statino sulla rete, è 6.450 euro. Più i 2.000 che prende da... Ti ho detto che ne prendo 8.000, sono stato onesto. Sono un sacco di soldi. Tra l'altro, secondo me, Cattaneo... No, ma questo lei l'ha già detto. Se c'è una cosa di cui mi pento è che quelle persone lì si sono sentite offese da quello che io ho detto. Sì. Ma le pare possibile che uno come me si deve giocare la carriera politica, come ha detto lei? Ma è un po' se l'è giocata, per poter dire che ci vuole il merito in politica, che non siamo tutti uguali, che ci sono anche quelli che lavorano... Perché ha messo in mezzo... non esistono nell'immaginario. Perché ha messo in mezzo, scusi Cattaneo, perché ha messo in mezzo la questione della casa e del mutuo? Lei è una casa che, a meno da quello che leggo, è inserita all'interno di un contesto, dunque non corrisponde a quelle foto lì, non è tutto il comprensorio. No, la mia casa non c'è in quella cosa lì, io sono in una situazione condominiale come tanti Quante stanze ha? A 13 vani catastali, i vani catastali sono una cosa diversa dalle stanze. No, vabbè, comunque 13 vani. Ma la mia casa è una bella casa. Quanti metri quadrati è? Ma sono circa 400 metri quadrati, è una casa dove si vive molto bene, io sono molto contento di averla e di essermela pagata e di... Ma è vero o no? No, per carità, ma nessuno dice niente, ma è vero o no che lei, oppure era semplicemente una boutade, che se davvero riducono il suo emolumento lei non riesce a pagare questo mutuo, avrà problemi a pagare questo mutuo? Quello che fanno tutti gli italiani, andrò a rinegoziare il mutuo, farò dei sacrifici, io non ho un mutuo di 1.300 euro come dicono, ne ho fatti due come fanno tanti italiani prudenti, uno a tasso fisso, uno a tasso variabile, quindi pago un po' più del doppio, ma non è questo il problema. No, questo è interessante, quanto paga? Quando... e guadagna 1.000 euro al mese, quelli hanno ragione a lamentarsi, non io. Ho capito, ma lei si è lamentato, però mica gli altri. Ma io mi sono lamentato per poter dire le cose che le sto dicendo adesso, perché se io non avessi detto quella cosa lì, lei non mi avrebbe chiamato, e non mi avrebbe chiamato Rai 1, Canale 5, eccetera, eccetera, eccetera. Ho capito, però lei non se l'aspettava. Però non è stato un metodo, cioè non è stato scientifico, perché secondo me lei all'inizio non se l'aspettava, è stato uno sfogo, Cattaneo. Io invece ho fatto questa cosa scientemente, la sera stessa ho postato un video in cui ho spiegato le ragioni sul mio sito. Ma è stato un suicidio, e poi però. Ho mandato un editoriale a tutti dicendo: io ho fatto questa cosa perché oggi in politica chi lavora bene, chi lo fa con passione, con onestà, con competenza, lavora 12-15 ore al giorno, è accomunato alle Minetti, ai Fioriti. Ma non è vero, ma non è, guardi che non è così, però Cattaneo. Ma come non è così? Ma noi non ci siamo, Cruciani. Ma non è vero che non ci siamo, ma non ci siete per. Esistono, ma scusi, né nei media né nell'immaginario collettivo. Cattaneo, ma scusi, perché deve dire così? Io leggo, scusi, sulle cronache locali della Lombardia, ma la Lombardia. È la Lombardia, cioè nel senso non appunto, può essere la Lombardia, è la Lombardia, ma è importante, è possibile che dei fatti della Lombardia si legga sulle cronache locali, scusi, basta. Per dire che lei lavora non è che c'è bisogno di dire che con 8.000 euro al mese se le riducono lo stipendio non arriva a pagare il mutuo, perché mi sembra una cosa un po' esagerata, a meno che non sia vero. Allora io voglio sapere, scusi un attimo, è vero il mutuo non è 1.300 euro innanzitutto, è di più? Gliel'ho spiegato, il mio mutuo, io ho fatto due mutui, guardi, mettiamo in piazza tutto, visto che siamo in tempo di trasparenza, qui ormai i fatti propri vanno messi in piazza, mettiamoli, io ho fatto due mutui, uno a tasso fisso e uno a tasso variabile, risultano tutti e due, soprattutto li pago tutti e due, 16.000 euro ogni sei mesi, fanno 2.650 euro al mese, è chiaro che fatto in un contesto in cui il mio stipendio era sopra i 10.000 euro era un conto, fatto oggi diventa un altro, se mi riducono lo stipendio a 4.000 euro e ne devo pagare 2.600 di mutuo mi restano 1.400 euro. Secondo me tra l'altro lo stipendio, Cattaneo, lei dice che è quello, ma è lo stipendio base, poi ci sono i rimborsi. No, guardi, io l'ho messo online, vada a vederlo, stipendio, rimborsi, 6.200 eccetera, eccetera. Dopodiché ci sono le spese di rappresentanza, le dico le mie spese di rappresentanza, allora nel mese di settembre 56 euro, nel mese di luglio 510 euro perché 405 li ho spesi in un pranzo con i giornalisti per raccontare quello che ho fatto durante tutto l'anno. Scusi, allora, ma lei è andato già a rinegoziare, andrà a rinegoziare quel mutuo sicuramente se le cose stanno così? Se mi taglieranno l'emolumento in modo significativo andrò a rinegoziare il mutuo, ma scusi, ma è quello il problema, ma cosa fanno gli italiani? Quanti sacrifici veri stanno facendo gli italiani? Cioè, scusi, secondo lei 4.000 è uno stipendio giusto oppure è sbagliato dare così pochi soldi a un consigliere regionale? Me lo dica chiaramente. Io credo che per un consigliere regionale 4.000 euro per il lavoro che fa un consigliere regionale medio è uno stipendio forse anche alto. Credo che le regioni non sono tutte uguali, una regione di 10 milioni di abitanti è diversa da una regione di 300 milioni. E dunque per voi della Lombardia bisogna almeno che lo stipendio sia, che ne so, lo stipendio giusto. Ecco, che chi fa l'assessore, cioè chi ha una funzione esecutiva e deve lavorare tanto, è giusto che venga pagato in modo diverso. Io ho una responsabilità. Cioè, quanti soldi le spetterebbero secondo lei, secondo la sua responsabilità? Me lo dica lei. Io ho su un budget di 2 miliardi di euro e governo investimenti per 30 miliardi dunque, di euro. Dunque meriterei quanto? Cioè, Dunque io dico che i miei 6.500 euro, se lavoro bene, e su questo voglio essere giudicato, credo di meritarmeli tutti. Non credo che sia uno scandalo che dico. Cioè, lei però, scusa, scusi, però lei fa intendere che in realtà anche 6.500 non sono poi granché rispetto al budget che amministra. Cioè, è vero, non sono poi granché. I miei dirigenti guadagnano di più. I dirigenti delle società con cui io ho a che fare normalmente guadagnano molto più di me. Però, guardi, il tema non è questo. Questo è fuorviante. No, ma che so, anche sento, per le mie politica vogliamo riconoscere il merito o no? Come si calca? Come si fa? Il tifoso milanista, magari un po' arrabbiato per i risultati. Lei che cos'è? Milanista o interista? No, io sono dall'altra parte, quelli contenti. Ah, sta godendo. Il tifoso milanista arrabbiato, cosa vorrebbe che facessero Galliani e Berlusconi? Dimezzare lo stipendio tutta la squadra o cacciar via quelli però, capaci? Però scusi, non è che la capacità, quelli buoni e magari comprarne qualcuno più buono. Cattaneo, la capacità o l'incapacità non è che si giudica dall'incarico che uno ha, lo può giudicare, diciamo, con un premio il presidente della regione, eccetera eccetera. Lo stipendio di un assessore deve essere più o meno uguale per tutte. Allora, per le sue responsabilità, lei dice quanto è giusto? 10.000 sarebbe giusto? Guardi, io credo che in un momento di crisi come quello in cui siamo, noi guadagniamo già tanto, forse troppo, quindi se ce lo tagliano un po', va bene così. Io non mi oppongo ai tagli. Lei ha detto che per responsabilità che ho, 6.500 è giusto quello che guadagna adesso. Io dico che quello che guadagno adesso è giusto, e se me lo tagliano un po', fanno bene a tagliarmelo, perché dobbiamo dare segni di sobrietà. E casomai rinegozierà con la banca. Ma non sono disposto ad accettare l'idea che bisogna tagliare tutto a tutti perché siamo tutti uguali. Poi mi faccia fare un'altra. Ma la piscina ce l'ha o no? La piscina condominiale, cioè io tra l'altro guardi, siccome di solito lavoro fino a tardi, la uso veramente poco. Ma non, non è che la vende sta casa, sono no? Sono contento, perché i miei figli, siccome già vivono senza il papà quasi sempre, io non li ho visti crescere, per il lavoro che faccio, se almeno possono godersi qualche vantaggio di altro tipo, io da padre sono contento. No, ma certo, ma non è che la vende sta casa dopo quello che è successo, no? Se non potrò mantenere, non la venderò. Cosa fanno gli italiani che non ce la fanno a tirare alla fine del mese? Ma lei, si vendono quello che hanno. Potrebbe vendere la casa, No, ma Cruciani, che c'è? Che c'è, Parenzo, dimmi. No, dicevo che l'assessore, avendo una casa di 400 metri quadri, volendo, anziché venderla, può alzare un bel muro, ricavare due appartamenti, metterci dentro 16 extracomunitari e risolto il problema. Ma vai al diavolo, su, dai, la stronzata di Parenzo, la stronzata di Parenzo delle 19:47 ci voleva, No, invece me lo fa dire un'altra cosa, che è l'altro aspetto che mi preoccupa, per cui ho fatto questa provocazione. Ma cos'è che stiamo tagliando in questo momento? Stiamo tagliando gli sprechi, le forbici, cosa colpiscono? Gli sprechi o la democrazia? Ma questo stiamo tagliando è lungo, quello che non funziona o affamando i comuni, eliminando le province, ma questo è un discorso lunghissimo, riportando tutto al centro dove gli sprechi ce ne sono e come, molti di più che negli enti locali. È un discorso molto lungo, Cattaneo, la cosa che le voglio chiedere è un discorso interessante, no, però è un'onda zanzara, le voglio chiedere una cosa, ma magari ne parliamo in un altro momento, sono molto interessato a questa cosa, però le molto chiedo, volentieri. Sua moglie e i suoi figli sono preoccupati da quello che è successo? Hanno ricevuto minacce o cose? Sì, sono preoccupati perché io ho ricevuto decine di minacce di morte con gente che ha scritto: perché non sappiamo dove abiti, altrimenti ti veniamo a prendere noi. Cioè, hanno minacciato la mia famiglia, questa è la sostanza. Hanno minacciato la mia famiglia. E sua moglie, che è successo? Il prefetto di Varese, chiedendogli la cortesia di poter valutare la possibilità di, diciamo, rinforzare le forme di vigilanza, non della mia persona, io non ho la scorta. Cioè, chiedo la scorta per la mia famiglia, questo? Non chiedo la scorta per nessuno, chiedo un po' di vigilanza perché il mondo è pieno di pazzi e io capisco che ho fatto una provocazione talmente violenta, talmente irritante, talmente sopravvivente. Ma sua moglie che le ha detto? La gente ha motivo. Mia moglie mi si fida molto di me, ma devo dire che con, diciamo, l'ha detto, hai fatto una stronzata. Sei sicuro di quello che hai fatto? Ma secondo lei perché uno come me deve fare una stronzata? Si è messa così a piangere sua moglie, che ha fatto? Mi sono rincretinito o sto ponendo un problema serio? Me lo dica. No, non lo so. Sì, no, ma sta ponendo un problema serio. Certo, bisogna, guardi, io carità, l'attacco anche, eccetera, però poi rifletto. Scusi un attimo una cosa, ma sua moglie davvero si è messa a piangere? Guarda, mia moglie mi ha detto l'altra mattina quando stavo andando all'arena di Giletti, mi ha detto: ma fagli capire che io sono figlia di un carabiniere, tu sei figlia di un operaio, e noi quando eravamo ragazzi non ci potevamo mai permettere un vestito nuovo, ci mettevamo le scarpe e vabbè, questo però che vuol dire? Fagli capire chi siamo, altro che quello che vuole insultare gli italiani perché non sa cosa sono i sacrifici. Io vengo da quella storia lì, io sì, a 15 ma ho anni capito, ma... facevo il barista per mantenermi il liceo e a 19 però questo non è un... le scuole superiori, ma ho Cattaneo, non è, questo non è un salvacondotto quando uno dice una stupidaggine magari o dice una cosa. Ma io sono d'accordo con lei, ci mancherebbe altro. Chiedo solo il salvacondotto di domandarsi perché. Perché uno con la mia storia, improvvisamente, deve dire una cosa così grossa e quale messaggio vuole far passare. La ringrazio, a presto, grazie. Grazie, Raffaele Cattaneo, uno degli uomini più discussi del weekend. Caro Parenzo, siamo qui. Sergio dalla provincia di Ferrara, buonasera. Per forza, detto buonasera. Dica. Io volevo parlare delle primarie. Beh, ci ha detto che forse il negozio è mood, addirittura mette in vendita la casa. Vuole la protezione per la famiglia che è stata minacciata di morte. Più di questo, che vogliamo dalla vita? Cioè, nel senso, cioè, voglio dire, abbiamo rinfrescato questa storia di cose nuove. Nuova linfa. Sergio, provincia di Ferrara, c'ho l'adrenalina addosso. Sergio. Sì, sono qua. Buonasera. Dica. Dunque, volevo parlare delle primarie del PD. Sì, però me, dica. Secondo me le primarie dovrebbero essere sparse in due volte. In che la senso, prima, scusi? Ma già l'hanno fatte già per il segretario, le vuole fare due volte adesso. Chi parteciperà alle primarie di coalizione? Sì, guardi Sergio, già è tanto che le faranno una volta, cioè in due turni. Lei le vuole fare due volte? No, cioè solo del PD. Solo gli iscritti del PD devono decidere tra Renzi e Bersani chi parteciperà alle primarie di coalizione. E poi altre primarie. E poi altre primarie. Chi vince dei due Vabbè. Va alle primarie di coalizione. Vabbè, Sergio, mi sembra di capire che la cosa non è impostata in questo modo. Fabrizio da Udine, buonasera. Buonasera, vorrei parlare in seguito alle segnalazioni, alle dichiarazioni di Alemanno. Lei può fare quello che vuole, anche fare una pernacchia, Fabrizio. Volevo chiedere ad Alemanno dove andremo a prendere i voti per vincere le elezioni. Visto ma che ne so Berlusconi, io, ma che ne sa Alemanno? Quello non sa. Quello lì è uno dei tanti che è stato sdoganato da Berlusconi, che è arrivato nelle stanze dei bottoni per merito di Berlusconi. E tutti dicono Berlusconi deve mettersi da parte. Vorrei capire chi è il leader che potrebbe sostituire Berlusconi, perché io non lo vedo. Io sono un elettore di Berlusconi, ma io un qualsiasi candidato non lo vedo. E va poi, bene Fabrizio, e poi un'altra cosa sulla Minetti, no? Io direi ad Alemanno, quando telefonerà ad Alfano, gli chiederà al ministro, ex ministro Scajola, quando si dimette, perché anche lui mi pare che fa parte di quelli alla Fiorito, no? Guardi però che se già guardi dicono, che no? Si dimette da che, scusi, dimette da che? Si deve dimettere da deputato, da deputato. Non è che si è preso l'appartamento che lui gratis, no? Lo sappiamo tutti, però lì non si parla. Gratis, no? Proprio, bene, no? Gratis proprio no, insomma. D'accordo, allora l'ha preso per la metà del valore, no? Scusi, è una vicenda controversa. Fiorito. Io non sono d'accordo. Ma che c'entra adesso Fiorito con il caso Scajola? Sono due cose completamente diverse. Ma perché? Ma vabbè, è uguale, d'accordo, è uguale, va bene, è uguale. Ma perché quello non si è preso l'appartamento per mettere ma i soldi? Ma che sta dicendo? No, ma di che lei ha letto le carte, come direbbe l'avvocato Dormina, di quella vicenda? Come no le ho lette? Sì, ha letto i giornali. Sono stati dati che lui non sa. Ma sì, va benissimo Fabrizio, ma cosa c'entra con la vicenda di Fiorito? Che è una vicenda... Per esempio, qualcuno si è preso i soldi in una maniera, qualcuno se l'è preso nell'altra, va bene. Sempre di soldi si parla, ecco. Sempre di soldi però si parla. Non si tocca perché sa, Scajola è potentato. Ma adesso perché lei si è fissato con Scajola? È impazzito con Scajola improvvisamente, Fabrizio da Udine. Chi è partita la brocca? Nessuno si è mai permesso di dire niente, va tutto bene. Vabbè. È tutto nel dimenticatoio, si lascia lì, non se ne parla. Eccoci qui, grazie Fabrizio. Non è che dimenticatoio no, perché le cose escono fuori, non si preoccupi. È con noi il mitico, intramontabile. Beh, io lo vorrei sempre in Parlamento, caro Parenzo, lo sai? Chi è? Beh, un grande personaggio, amico nostro, amico per modo di dire, perché ogni tanto insomma combattiamo alla radio, però un personaggio che è uno di quelli che uno dice torna in Parlamento, beh sì, ce lo vedrei, insomma, tornare in Parlamento. Ma un grande intellettuale italiano? Ma non è un grande intellettuale italiano. Ma tu chi vorresti in trasmissione, dimmi? Ma non so, io arrivo Miguel Gotor, farei una ma ancora sei fissato con questo Miguel Gotor? Ti pare che ospito Miguel Gotor, mi spengono la radio? Sì. Fitoussi, ad esempio. Ma mi spengono la radio dopo 30 secondi. Oppure parlerei, ad esempio, col grande Bernard Henri Lévy. Sì, così, sarebbero... così c'è la noia mortale che arriva e ci cacciano. Capito. Tutti. No, assolutamente. Cose da fare. No. Un filosofo no, della scienza. No, ma non c'entra niente filosofo. È un imprenditore, uno che è stato sottosegretario alla difesa. Sottosegretario alla difesa. Il grande Crosetto. Eh beh, lui, sì, sì. Buonasera, come andiamo? Bene, è una buona giornata oggi? Berlusconi ha deciso di non ricandidarsi? È una notizia buona? Una notizia che la rende felice oppure no? Che la fa godere? Voilà, una notizia che se fosse vera e se lui si dedicasse a mettersi un po' di energia per costruire un centrodestra, forse potrebbe aiutare il paese ad avere un panorama politico più normale. Dunque una buona notizia, diciamo. Potrebbe essere una buona notizia. Se lui si impegna, sì. Se lui si impegna, ma cosa deve fare per impegnarsi? Perché quelli che vogliono stare con lui lo vorrebbero fuori, cioè questo famoso centro... No, guardi, io continuo a dire, ma come lei sa non è che gli mando a dire nulla, continuo a dire infatti... che noi dobbiamo avere nel centrodestra un campo in cui confrontare come si confronta la sinistra, tutto il centrodestra, per fare un soggetto politico che abbia delle idee, che selezioni una nuova classe dirigente... E Berlusconi che ruolo deve avere? Faccio un bagno di umiltà partendo dal basso. E Berlusconi che ruolo deve avere? Di padre nobile, di è nonno? Quello che riesce a tenere assieme, può disegnare il campo e fare l'arbitro se decide di non... L'arbitro? Beh, l'arbitro è una cosa impegnativa però, l'arbitro. Cioè... Beh, il centro-sinistra non ce l'ha, perché chi dovrebbe fare l'arbitro corre, cioè Bersani corre. Quindi, che ne so, il padre nobile che deve fare? Se facesse un passo indietro potrebbe assolvere questo ruolo. Eccoci qui, sono le 8:00 24:00 24, la Zanzara con Davide Parenzo, sempre in collegamento da Siena. Hai fatto la minestrina, il salmone, non so che cosa? Hai finito? Ho fatto, adesso senti qualche friccica, ho fatto l'antipasto di salmone per mia figlia e ora le sto facendo il petto di pollo all'aceto balsamico. Cosa pazzesca, guarda, io devo sentire delle cose incredibili, il lunedì e il martedì, preparatevi cari miei. Ma cari... senti che friccica? Sì, no, ma io odio il fritto. Ma lo senti? Odio il fritto, per cui figurati, fa malissimo il fritto. Ma che male? Fa molto male il fritto. Fai male tu, non il fritto, tu fai male. Ma sì, può darsi. Il tuo cinismo fa male. Può darsi. Il tuo disincanto, la tua mancanza di passione e di amore, quello fa male. Ma chi l'ha detto che non ho passione né amore? Scusa, no, lo dici sei tu? Un cinico, andiamo avanti comunque. Ma che vuol dire sono un cinico? Cioè, no, sono sei cinico. Un cinico spietato. Ma sono un cinico al punto giusto. Cioè, non sono mai. Adesso dici che il fritto fa male. Tu fai male, non Vabbè. Il fritto, tu. Vorrei fare ascoltare a Crosetto, così per deliziare le sue orecchie, le parole pronunciate ieri dalla Minetti. A pomeriggio là, come diavolo si chiama? No, no, no, è domenica sul 5 lì. Sì, domenica live si chiama, ricorda di questo. Tra l'altro ascolti molto bassi rispetto all'imitatrice della Minetti, molto brava, su Rai 2. No, ma non parlare male di Mediaset, non mi piace. Io non sto parlando male di Mediaset, sto dicendo che non mi piace. Ha fatto questo atteggiamento anti-berlusconiano, non mi piace. No, ha fatto più ascolti l'imitatrice che l'originale, questo è un dato di fatto, ha fatto più ascolti l'imitatrice che l'originale, punto, lo dicono tutti, lo scrivono tutti. Minetti è un po' di Minetti, così per le orecchie di Crosetto. Non ha fatto un errore a mettere questa maglietta? A mettere una t-shirt? Sono questi i problemi d'Italia? No, non una t-shirt, se la mette sempre la t-shirt, questa t-shirt. Ma perché? È una t-shirt oscena, rappresenta delle immagini, non so, vietate ai minori 18 anni, la frase riporta se qualche la toglie, parolaccia. Sì. Se la toglie sì. Cioè, allora, non capisco. Se se la toglie senz'altro. Tra l'altro è una maglietta che è piaciuta tanto perché ultimamente l'ho vista anche addosso a Claudia Gerini. Questa è la famosa maglietta, poi la frase, la frase clou, quella sulla, quella sul fatto che non ci vuole gente preparata in politica. Però io su questo voglio spezzare una lancia a favore della Minetti, cioè sbaglia la Minetti a dirlo perché non è la persona adatta a dirlo, cioè non è lei che deve dire, però il tono è diverso, lei vuole dire non è che bisogna essere degli specialisti per fare politica, ci si deve occupare un po' di tutto. Ed effettivamente un po' è così, non ha tutti i torti, poi in bocca a lei suona strano questo concetto, Sentiamo. Prima di tutto, secondo me, bisogna tenere in considerazione che la politica non deve essere per forza di persone che sono preparatissime, cioè la politica rappresenta tutte le categorie, non è che deve rappresentare sul 100 una taluna categoria. E vabbè, questa è la frase. Crosetto? Che dice? Sta telefonata di Alfano, ma è una buffonata della Minetti oppure cioè voglio dire, perché dopo mesi ancora non si arriva a una soluzione di questa vicenda? Cioè ci vuole il segretario, cosa è successo? semplicemente che, essendo il mandato nelle mani, nelle sue mani, se lei non vuole dimettersi, non si dimette. D'accordo. Il Papa, il Presidente della Repubblica, Berlusconi ad Alzano. Purtroppo, una volta eletti, il mandato è nelle mani dell'eletto, singolarmente. No, ma questo lo so. Sì, certo, per fortuna. Non pensando alla Minetti, per fortuna pensando alla democrazia. No, ma questo è vero, questo è vero. Però, evidentemente, se il segretario, delle due l'una, o il segretario non conta nulla, o io direi anche non conta un cazzo, oppure nella vicenda di Minetti, oppure c'è qualcos'altro sotto. Insomma, lei che è un uomo di mondo, che sa le cose più o meno dei palazzi, ci spieghi questa cosa. La gente non capisce se il segretario del partito gli ha detto di dimettersi. Berlusconi pure voleva che si dimettesse, oppure... E lei ha deciso di non farlo, probabilmente anche perché questa visibilità mediatica che ha assunto negli ultimi mesi ha un valore economico per lei superiore a tutto il resto, ed è collegata al fatto che lei sia consigliere regionale. Si rende conto, cioè lo dico a lei, Parezzo, che gli è andato 125.000 euro per fare una sfilata? No, 5.000 è falso. Ah, è una balla quella cosa. È una balla uscita, lei ha detto 5.000, anche noi sappiamo 5.000 perché ce l'ha detto il proprietario di quell'azienda. Però io ho letto su internet, quindi... Lo so, ma sa, lei, insomma, anch'io ogni tanto leggo delle cose su internet che poi non sono... No, ero sconvolta. No, 5.000 euro, non ci sono più quei... Non ci sono più quei... Okay. Vabbè, no, però comunque ha una visibilità che altrimenti non avrebbe avuto. Parliamo tutti a Minetti, cioè... No, è vero. Chiamate per parlare della Minetti. Su questo... Tutto il giorno che mi leggo il conto consuntivo e voi mi fate... ma lo sa che noi non è che parliamo del conto consuntivo, sennò altrimenti ci addormentiamo. No, le cose più noiose da fare staccherebbero tutti la radio, però... Cioè... Io tutto il giorno cerco di fare cose serie, poi però quando dico arriva la Minetti sulla Minetti trovo subito risalto su tutti i giornali. Lo so, ma quella mi fa pensare un pochettino. Quella colletta là non l'ha più fatta poi per mandarla via, no? No. La famosa colletta per farla dimettere. No, in tempi non sospetti. Quando è stata? A maggio. Adesso non è più divertente sparare sulla Minetti, quasi come sparare sulla Croce Rossa. Addirittura? Allora, la Croce Rossa l'hanno chiusa per decreto, quindi praticamente... E come sparare sulla Croce Rossa? Beh, sì. Però vi danneggia ancora o no? Cioè, le sfilate, l'apparizione in televisione in quel modo, vi danneggia o non vi danneggia? Cioè, danneggia più di Fiorito, secondo lei, o meno di Fiorito? Ma no, cioè, non c'è paragone. Cioè? Molto di più Fiorito. Molto di più Fiorito, eh? A parte il danneggio, a me non puoi pigliare... Vabbè, danneggia dal punto di vista elettorale. Interessa la mia reazione, che è quella simile a tutti i cittadini. Cioè, molto più. Mentre sulla Minetti riesco a sorridere, ecco, su Fiorito cambio immediatamente il tono della voce, lì non c'è nulla da sorridere, o nulla per ironizzare. Ecco, ma lo vogliamo dire una volta per tutte, poi chiudiamo con la Minetti, la responsabilità della candidatura della Minetti è di Berlusconi, perché poi uno non è che può su questa cosa qui fingere, no Parenzo? Non è che uno può menarsela troppo, cioè adesso lo sappiamo tutti, ma nessuno dei deputati del PDL ha il coraggio di dirlo, l'ha detto oggi un assessore in Veneto, la Donazzan, sì. L'ha detto chiaramente, la responsabilità della candidatura della Minetti, che ha provocato quello che ha provocato, è di Berlusconi, è lui che l'ha voluta nel listino bloccato, al di là delle cose di Don Berzè, Formigoni, tutte queste bazzecole, insomma, lo dica pure lei, la responsabilità grave di questa scelta è stata di Berlusconi o no? Ma guarda, siccome la vicenda di Minetti, come dico, non mi interessa, so che la Minetti ha preso il posto di un'altra donna che doveva essere nel listino, che è mancata mi pare due giorni prima, quindi probabilmente non sarebbe neanche stata candidata. No, ma questo chi lo dice? No, questo guarda, me lo diceva un mio collega, siccome le vicende lombarde non ne conosco, anche lontano. Mi diceva che doveva esserci una donna candidata nel listino che ha avuto una disgrazia alcuni giorni prima della formazione del listino. Minetti esce così, quindi esce così senza casualmente come candidato. Non è strano che Berlusconi vada da Putin a festeggiare i 60 anni? No, è un amico. È un amico, ma lei un po' è un'amicizia un po', come dire, che pericolosa. No, non dico pericolosa, però che un po' di cui un po' ci dobbiamo, il suo partito si deve un po', cioè... Le cose di cui si deve vergognare il mio partito sono altre, innumerevoli, soprattutto nell'ultimo periodo. Per esempio? Fiorito, dato prima il caso eclatante delle ultime settimane, io poi su alcune cose io sarei, anche se le cose come dice lei sono diverse, ma io non, la vicenda Scajola, io non ho problemi a dire che è un'altra cosa di cui vergognarsi, cui io avrei agito diversamente, quindi cioè? Ma Vede, io sono per l'espulsione di Fiorito perché non sopporto va bene, fatto, certo. Ma non è che se a mia insaputa qualcuno mi paga la casa io poi me ne sto tranquillamente, cioè. Quando io penso che un partito, la credibilità di un partito si costruisce anche con scelte dure, nei momenti in cui un dirigente, per quanto tu abbia rispetto, sbaglia, sì, devi invitarlo a dire: bene, dopo che hai sbagliato, hai tradito non solo il tuo partito, soprattutto, sì, gli italiani, a questo punto torna a fare un altro lavoro, cioè non sei obbligato a stare qua. Cioè gente come Scajola non va ricandidata, secondo lei, in questo nuovo soggetto politico? Ma no, io dico, poi ripeto, come lei sono una persona che aspetta il giudizio, ma se uno non mi riesce a giustificarmi come ha fatto a pagare una casa, per me ho un affitto di una casa, per me è una persona con cui non parlo più. Cioè. Quindi vale per chi compra le case, vale per chi paga in nero, sì, gli affitti delle case. Cioè. E senta, la questione della non ricandidabilità dei condannati, lei farebbe l'ultimo grado, primo grado, una cosa tassativa oppure no? Conoscendo la giustizia italiana aspetterei il secondo grado, visto che il terzo non è più rilevante ai fini del fatto, quindi dopo il secondo grado, secondo me una persona condannata per me può non essere candidata, poi ben venga se viene assolta nel divenire, se uno si è sbagliato e ha fatto un errore può benissimo dargli l'onore e la dignità, ma siccome sono molti quelli che vogliono rappresentare, pochissimi alla fine quelli che hanno subito queste cose, perché tenerli? Ecco. Parenzo, ma lo sai che mi capitare il caso di Dell'Utri, quindi Dell'Utri assolutamente non va ricandidato. Quando io faccio casi non è che per me vale per tutti, cioè non è che no, per esempio uno come Dell'Utri parlo e non ne penso se voi me lo chiedete, cioè se una regola vale per tutti non è non la penso contro di lui, la penso per il bene di partiti che devono riavere una dignità, e la dignità passa anche attraverso regole dure, ma già doveva essere qualcuno già non è uno scandalo il fatto che sia ancora in Parlamento, secondo lei? Una domanda Non è uno scandalo, perché se la legge glielo consentiva, no, politicamente, cioè, le regole glielo consentivano, io sono un operatore a regole più serie, se non le fa la legge i partiti devono farle. Ecco appunto, ma politicamente non è uno scandalo che per voi, dico, che sia ancora in Parlamento, che ancora sia in Parlamento, cioè che sia ritornato in Parlamento? Ma siccome una parte, l'accanimento di una parte della magistratura l'ho visto e l'ho sentito con i miei occhi, l'abbiamo constatato tutti in questi anni, ci sono alcune vicende che sono andate al di là di quella che è la ricerca della giustizia. Io penso che nella vicenda di Dell'Utri ci sia questa parte di magistratura che ha cercato di colpire lui per colpire qualcun altro. Ciò non toglie che io metterei una regola e dice, pur sapendo che magari mi sbaglio, perché c'è solo una persecuzione dopo il secondo grado, non importa, il bene di rappresentare i cittadini è superiore anche alle possibilità del singolo e ai diritti del singolo, no? E quindi in un momento di crisi morale come questa magari qualche regola un po' più dura. Dunque sicuramente non si deve ricandidare, sicuramente non si deve ricandidare uno come Dell'Utri. No, ricandidare io lo ritengo, al di là di aspetto di Marcello Dell'Utri, io ritengo che ci siano delle persone che hanno avuto 6, 7, 8 mandati, hanno raggiunto un'età rispettabile e possono lasciare spazio anche ad altri. Ma vale per Dell'Utri, posso. Sì, no, certo. Ci sono altri decine di colleghi. Ma anche Berlusconi, per esempio, lei troverebbe strano ritrovarlo in Parlamento. Berlusconi, come voi sapete, tutti, ho sempre detto che lui non doveva più ricandidarsi Premier, ma continuo a pensare che l'unico che può mettere insieme il campo di cui parlavamo prima è per lui ricostruire il centrodestra, quello che ha in questo momento l'opportunità di fare l'altro superpartes, è lui. Ma d'altronde io avrei voluto Cossiga in Parlamento fino a 90 anni, avrei voluto Napolitano, adesso non c'è più, cioè avrei voluto alcune delle persone, non mi interessa. Non è questione di età, dice. Mi interessa cosa hanno da dire e l'intelligenza che hanno. Che è con sua madre stasera, non sta cucinando? No, per fortuna di mia madre no. grazie. Parenzo, ci sei? O sei ancora col fritto? No, certo che ci sono. Col fritto. Saluta Grosetto, dici ci vediamo presto a Roma. Ciao, ci vediamo presto. No, se viene a cucinare anche per me, io sono contento. Per te però devo ammazzare due mucche intere. No, ma sta dimagrendo. No, ma è una persona squisita e adorabile. Mi dispiace. Peso, voglio dire solo questo. Mi dispiace che nel PDL non sia pieno di Grosetto, perché è una persona veramente adorabile. Calderoli, voglio risentire il signor Calderoli. sei rispuntato improvvisamente. Sì, alza un po' la voce che si sente ma poco. Ma sentivi la mancanza, c'è Calderoli? No, no, parola Monti porta sfiga, tanto per entrare subito, no, con le mani nel piatto. Nel merito, nel merito. E ogni mese, a partire da novembre, prima a Bologna, poi a Genova, tutti i mesi saremo in piazza contro il governo e contro Monti. Caspita, l'ho detto, porca bestia. Io ho il sospetto, giuravo di non dir mai la parola Monti, perché per me porta una sfiga dell'accidente. Poi racconta la sua estate di merda, così la definisce il signor Calderoli, alla festa dei popoli padani, dove ricordo vendevano oppure davano in omaggio, non lo so, una padanina, una specie di ciccio bello padano vestito di verde. Una patatina. Una padanina, non fare questi doppi sensi ridicoli, patetici, no, da 25enne, su, dai, no, la patatina, la patatina, hai detto. Non ho capito. Calderoli ha un tumore e in 3 mesi mi sa che muore. Ne sono passati 4 e toccandoci le balle sono ancora qua, per fortuna. Poi siccome le disgrazie non vengono mai da soli, a giugno c'è un incidente, mia mamma si fa 3 mesi e mezzo di ospedale e 1 mese di rianimazione. Settimana scorsa hanno operato per la 3ª volta quest'anno mio figlio. Se uno dice che non ha passato, scusate il termine, un'estate di merda, cioè ci manca proprio poco. E vabbè, ma insomma, non è che ci dobbiamo preoccupare moltissimo delle estati di merda del signor Calderoli, In Parlamento invece, o non so dove, no, sempre alla festa dei popoli padani, credo, il signor Rainieri, che è un deputato della Lega, appuntatevi questa cosa, Rainieri, senti che dice su Monti. Deputati dell'Emilia, della Lombardia e del Veneto, solo promesse e neanche mantenute, Monti sei un lurido buffone! Lurido buffone, il signor Rainieri. Rainieri, amico mio Rainieri. La Lega 2.0, la Lega 2.0 di Maroni. Ma si vede che questi li hanno lasciati lì ancora. Non gli hanno ancora spiegato cosa sta succedendo, evidentemente. Michiché che racconta gli scherzi telefonici. Gli scherzi telefonici che gli fa Montezemolo nel famoso video che circola sulla rete, segreto, tra virgolette, sentiamo. Perché ho Montezemolo che mi chiama e fa lo scherzo telefonico davanti, lo sai, mi chiama e mi fa: pronto la Repubblica, ma lei è amico di Dell'Utri, mi hanno detto, facendo cose. E dico: guardi, io con voi su questo argomento non ci parlo. No, mi deve parlare, mi fa, ed era lui, mente, lui che Montezemolo rompa amiche e mi fa lo scherzo telefonico. Perché io ho tutta una serie di relazioni. E poi esalta le sue relazioni, fratello banchiere, Montezemolo e non so chi altri. L'altro che è vicepresidente del Palermo, un fratello che è capo di Banca Intesa. Poi dice delle parole un po' delicate sui termovalorizzatori, sugli interessi di alcuni uomini politici, eccetera, eccetera. Scatenato il signor Michiché. Scatenato. Patrizia dalla provincia di Lucca, buonasera. Buonasera, dica, dottor Cruciani. Dica. Io voglio dire questo, ritornare sulla questione se Berlusconi deve o meno lasciare. Berlusconi ha già lasciato, adesso Alfano oggi annuncia che è pronto a non ricandidarsi. Non si ricandida. E questo lei l'ha chiesto sia a Alemanno che a Crosetto. E allora, che Crosetto dica quel che dica, ha diritto di dire qualsiasi cosa, non nulla da eccepire, ma che Alemanno si permetta di dire: non basta che vada via Berlusconi, che non si ricandidi Berlusconi, non si devono ricandidare nemmeno i suoi colonnelli, tra cui Alemanno, perché vede, dottor Cruciani, noi alla televisione sentiamo ogni tanto. Ma quello dire, è sindaco di Roma, si vuole ricandidare a governare la città, avrà diritto di ricandidarsi. Deve, sì, si ricandiderà, se lo bocceranno i cittadini, non lo bocceranno, esatto, i cittadini, questo lo vedremo. Dunque, però dico, devono andarsene via questi colonnelli, perché vede, quando noi alla televisione sentiamo dire ci sono i tavoli che hanno deciso le candidature, ma a questi tavoli che hanno deciso, per esempio, la candidatura dell'altro, io mi sono andata a vedere chi c'era Cicchitto, che ha sistemato il suo portaborse, Tajani, che ha sistemato il suo portaborse, e Alemanno, che ha sistemato la moglie. Che ha sistemato, ma la moglie fa politica da quando aveva 14 anni. Sì, ma ce ne sono tante, dottor Cruciani, che fanno politica. Sì, ma non c'è dubbio che ci sia, una cooptazione. Ma non, allora, non ma guardi allora, solo agli incarichi politici, guardi che no, la cooptazione dei parenti peggio, è a tutti, certo, i livelli. È a tutti i livelli. Peggio mi sento, capisce cosa voglio dire? Allora, che cosa voglio dire? che ci deve essere un, se il rinnovamento ci deve essere completo, cioè ci deve essere l'azzeramento, non è che l'azzeramento non è che tutelato. Ma no, io sono d'accordo con lei. Decidano, capisci? Sono cioè, d'accordo con lei. Nessuno si sente tutelato se lo ridecidono alle mani. Grazie, grazie Patrizia. Francesco da Milano, buonasera. Sì, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Vada. Senta, in merito a quello che ha detto Cattaneo, io vorrei ricordargli, senza rimproveri perché non ho nessun diritto di farlo, sì, che c'è gente che con 1200 euro al mese, oltre a pagare il mutuo della casa, mantiene anche la famiglia. Vabbè, questa però, scusi Francesco, non è che siamo tutti uguali da questo punto di vista. C'è chi guadagna 1200, c'è chi guadagna 4, c'è chi guadagna 10, chi 20, chi 30. La contestazione delle persone che hanno letto quello che ha detto cioè, è dettato da questo, secondo me, no? Che poi non esiste che uno debba minacciarlo o meno, però c'è gente che francamente o fa fatica ad arrivare al muro. Ma infatti il suo errore è stato quello di piangere la miseria. Esatto, esatto, ma infatti è per quello che io sto chiamando per questo. Grazie. Poi, Francesco, una cosa, sì, mi dica, una cosa mi dica. Che secondo me può servire. Ma nessuno ha mai pensato in merito alle tasse che forse i piccoli imprenditori tipo gli agenti Nasarco che lavorano nelle varie concessionarie o agenzie immobiliari sono forse i primi non colpevoli volontari. Ma che cosa? Ma non so. Sulle tasse. Nasarco. Bisogna obbligare queste piccole aziende a pagare le tasse di questi piccoli imprenditori. Guardi, Francesco, non sono cose che conosco. Mi perdoni, non può chiamarci per parlare di cose troppo particolari. Marco da Milano. È la partita IVA. Sì, Marco da Milano, buonasera. Sì, Marco, buonasera. Dica. Dunque, io apro parentesi. Per essere di conforto Calderoli, volevo dire che pure io ho passato un'estate di merda per colpa proprio di queste merde, perché sono tutte facce in merda. Scusi la volgarità, ma è così. Marco, lei è, come dire, no? Costruttivo, soprattutto, ma va benissimo. No, vabbè, ma io ho passato un'estate di merda per colpa di quelle facce di merda, poi aggiunga... Certo. Vabbè, e perché... Ognuno ha i suoi problemi. Perché non si è divertito quest'estate invece di passare un'estate di merda, scusi? Ma perché sì, perché noi invece di andare avanti andiamo indietro. E lei non si è divertito quest'estate? Dicendo che andiamo indietro. Ma che ha fatto quest'estate? Scusi, che ha fatto quest'estate lei? Ma adesso non è che voglio aprire problemi, ognuno ha i suoi problemi economici, finanziari, possono essere anche legati lei dove al lavoro, dove è stato? Cose. Dove è stato quest'estate? Ma non conta dove sono stato, dove vivo. Il problema è questo, il problema è che tutti credono alla politica e non hanno ancora capito che la politica è una presa per il culo. Vabbè. Il paese ha bisogno di tecnici, a differenza di chi dice che non è vero, ma perché il paese è un'impresa, quindi l'impresa va gestita da persone che sanno, a differenza di quello che dice la Minetti che è stata messa lì. Che poi tra l'altro la Minetti, come è andata a finire la questione che il suo amico portava i chili di droga nella macchina? Stia tranquillo Marco, non lo no, so, ma non era lei. Anche il cartello della Lega che ho letto che c'è scritto sui posti di lavoro, tra parentesi per i giovani, come per dire che quelli di 30 anni sono Parenzo, che fuori. Succede alle 20:25? Vedete, bisogna mandare sempre, come al solito, la chiamata in convenzione col Ministero della Salute e se non arrivano gli infermieri entro pochi minuti va fatta immediatamente una flebo di 40 cc con soluzione B12. Un attimo solo, Chi stai chiamando? No. Sì. No. Ebbene sì. Il fascista. Stai tranquillo. Che dopo apriamo le gabbie. Quello lì? Quello lì. Quella brutta persona? Sì, quello lì. Sono carichissimo per quella brutta persona lì. Lo so, però non risponde, mi sa. Chissà cosa starà tramando. Chiamiamo la moglie, va. Tanto Marco dalla provincia di Milano. Bella coppia comunque quella. Marco dalla provincia Mamma di Milano. Mia. Marco? Sì, pronto? Vada. Sì, pronto Cruciano, io abito a Milano, in realtà sono di Roma. Sì, e allora? Senta, Cattaneo il piagnone mi fa troppo ridere perché sinceramente vorrei capire la differenza con De Romanis. In che senso, scusa? È un consigliere regionale, però De Romanis ci sono le foto, farine, vestito da maiale. Sì. E invece Cattaneo, qua piagne il radio che non gli arriva con la casa dei 400 metri quadrati. Che noia, sì, i consiglieri. Beh, certamente il pianto per la casa di 400 metri quadrati o comunque la lamentela non è proprio il massimo della vita. Almeno nel Lazio si divertono. Almeno nel Lazio si divertono. Almeno nel Lazio fanno le feste. Magari le fanno anche qui, ma meno visibili. C'ha ragione. Ma e poi vorrei dire un'altra cosa. A me mi fa un po' ridere. Un attimo solo. Pronto? Signora Cannizzaro? Sì? Buonasera, qui la Zanzara, come sta? Radio 24. Non ho capito, pronto? Radio 24. Radio 24, signora. Ah, c'è il condannato? Buonasera, lei è stata condannata anche lei a 5 mesi insieme al suo marito, ma che è successo? Ma per che cosa, mi scusi? Per la legge sulla apologia di fascismo. Ma io questa cosa ancora non la so, comunque se sono stata condannata andrà all'appello, perché è una legge stupida, che certo. Avere una condanna del genere è da stupidi. È da stupidi. Dov'è, scusi, Dov'è quell'adorabile? Ma lei è Cruciani? Sì, sono io, certo, sì. Certo. Ah, ecco, perché sentivo qualcuno che... E le Parenzo l'altro, è sempre... Esatto, Parenzo, sono veramente sempre felice. Che l'abbiano condannata. Un attimo, non capisce niente. Stai calmo. Dov'è suo marito? E adesso non c'è qui, mi dispiace. Dove lo possiamo trovare, signora? Che lo stiamo cercando disperatamente per fargli commentare questa cosa. Mi sente? Pronto? Sì, la sento. La sento poco. Stiamo cercando suo marito, il mitico Gaetano Saia. Non c'è qui con me, mi dispiace. Ma come, la lascia da sola? Che c'entra, mica sono da sola. Ho capito. Suo marito non è con me. Ma dove lo possiamo trovare, suo marito? Sta facendo qualche colpo di stato in giro? Sta preparando il terreno per qualche azione rivoluzionaria? Che sta facendo? Ma anch'io mi sto preparando per qualche azione rivoluzionaria, perché ormai in Italia si va male. Certo. Chiaramente bisognerebbe buttare fuori tutti quelli che stanno rubando, no? Non c'è dubbio. Sta bene con quel governo che c'è adesso? No, ma certo mi sta... Con quei politici che non fanno altro che mangiare in continuazione. Noi almeno soldi dei cittadini non li abbiamo mai presi. Scusi, signora Cannizzaro, lei è stata appena condannata a 5 mesi per apologia di fascismo. Volevo semplicemente... Anche il giudice che ha condannato non capisce nulla, tanto che io farò l'appello e poi se... Non capisce nulla. Tutto per... Non capisce nulla. Ma se voi vi mettete con le... Se voi vi mettete... avanti e fare una cosa del genere, prendendo delle cose serie, c'è veramente da... Scusi, signora Cannizzaro, ma lei mi deve dire una cosa. Ma dov'è finito suo marito? Io lo sto cercando. Ma guardi, non ho capito. Se lei vuole stare, lei sa dove trovarlo sempre. Ma Ma ho capito, ma voi... Perché lo cercate a me? Perché non lo troviamo? Perché non troviamo lui? Questo è il punto. Non troviamo lui. Perché non lo trovate? Mica è desaparecito, mica è scappato. E dov'è? Noi andremo in appello e quando ci sarà poi l'appello, dopo si vedrà. Comunque, vabbè, adesso lo chiamiamo. Oggi in Italia, vero? Vabbè, adesso non è che possiamo fare il comizio. Una cosa del genere è assurdo. Non mi moleste moschito. Non mi moleste moschi. Eccoci qui, 20:36, stiamo chiudendo. Ma una serata, ho sudato come un pazzo, David, ho sudato come un matto. E come? Ho sudato moltissimo, sento caldo, molto caldo. Perché fai battaglia. Battaglia, sì, non troppo, non sono molto soddisfatto, sempre più battaglia ci vuole. Ci siamo sfogati però poco, ascoltatori battaglieri non ce ne sono che mi danno soddisfazione. Chiamiamo quello di il solito amico nostro, il camionista. Chiamiamo il camionista, vi prego. No, ma richiamiamo un attimo Saia. No, lo so, adesso richiamiamo. Intanto con noi c'è Santino Bozza, un mito, una leggenda, consigliere della Lega Nord nella Regione Veneto, buonasera. Buonasera a tutti. Come sta, mitico Bozza? Mitico. Io sto bene, sempre un po' di mal di gola, però. Sempre dai che abbassiamo. Dai che abbassiamo il livello un po', forse. Ogni tanto ho fatto una docenta, ho sentito che è caldo. Io ho caldo, sì. Che devo fare? Che devo fare? Sei giovane tu. Che devo fare, Bozza? È una docetta fresca. Una docetta fresca, A quest'ora si può fare mai cosa. Dai che abbassiamo il livello, forza. Quanti anni ha Bozza lei? Ci dica tutto. 65, ancora riesce per esempio a ciulare? Ci mancherebbe altro. E che ne so, quante ne fa a settimana, Bozza? Dai, ascolta, diciamo le cose serie, dai. Ma che serie? È una serie che quello, io ci mancherebbe altro. No, appunto, ma queste sono le cose serie, non la politica. Cioè, Della vita è ciulare. Vai tranquillo, sono un amante di queste cose io. Malato di queste cose. Ma che malato, insomma, io sono un uomo e basta. No, ma per carità, ma nessuno... Ma da giovanotto, quando era giovanotto, quante ne faceva da giovane? Insomma, si mangiava di più, si era più giovane. No, dico, durante la settimana. Ma la pillolina, la pillolina la prende, Bozza? Qualche pillolina? Ma che pillola, sono la vecchiaia ancora, che pillola. Io immagino del buon prosciutto, della buona carne, della buona pasta asciutta... E qualche bel bicchiere rosso, hai capito? Bravo Bozza, applausi finti, su, applausi finti, fate partire gli applausi finti, dai, ce l'abbiamo. Bevo del buon vino rosso. Bravo, questo è il doping, questo è il Viagra. No, Questo è il Viagra, bravo Bozza. Formaggio grana padano. Bravo, bravo. Senta una cosa, ma è vero che le vogliono togliere un po' di soldi dallo stipendio anche a lei in Veneto? Sì, certo. Ma è giusto. Eh? È giusto. Come è giusto? È giusto, se c'è crisi c'è per tutti. Anche perché giustamente abbiamo dei problemi, la nostra gente, i nostri operai, i nostri padri. Ma lei come fa? Ha dei mutui da pagare pure lei come Cattaneo? Ma penso che abbiamo tutti dei mutui, perché ognuno si fa i suoi conti, ha qualcosa da fare, come un operaio quando va in banca, si fa il suo mutuo in base ai soldi che prende e gli danno il mutuo. Io lo guardo in base a quello che prendo, l'ho fatto anche a parte che avevo un'attività. Ma è giusto o no tagliare questi soldi dello stipendio? Che mi permetteva, prendevo anche di più di adesso. Scusi, Bozza, ma è meglio o no? È giusto o no tagliare questi soldi? Sì, è giusto tagliare questi soldi. Cioè prendere i soldi anche al nord, è giusto? Oppure dovrebbero andare a pescare? No, i soldi assolutamente prendono già il doppio di noi. Ma chi prende il doppio? Ma come? Basta andare in Sicilia, prendono 17.000 euro al mese, un consigliere regionale. Addirittura gli uscieri del comune a 5-6.000, altro che a Roma, altro che lì stanno meglio di noi, capito? E dunque? Allora lì dobbiamo tagliare, anche perché sono regioni che non producono PIL, non producono niente, non sarebbero neanche in grado di mantenere la gente. Perlomeno a nord si lavora, si produce anche bene, la ricchezza giustamente si governa anche. Dunque bisogna andare a pescare lì i soldi, inutile che tagliano i vostri stipendi. Ma no, ma qualcosa per carità, ma intanto portino i suoi alla pari dei nostri, che noi prendiamo metà di loro, capito? Ho capito. E tutto qua insomma. Senta, ma Maroni, ci ha parlato con Maroni recentemente, lei che è sempre un bossiano di ferro, ci ha parlato o no? Perché no? Su Equitalia, per esempio. Io spero che questo signore, perché bisogna parlare, bisogna anche fare i fatti dopo. E che fatti bisogna fare contro Equitalia? Equitalia, bisogna che Equitalia vada dalla povera gente che ha problemi, che deve pagare, invece di mettere i tangenti, perché chiedono le tangenti anche loro, infine, anche per Equitalia. Diciamo che, io ho già detto, non sono i colpevoli. Lo Stato è colpevole, lo Stato, sono la lunga mano dello Stato, la mano armata dello Stato, dico io. Dunque? È colpa di questa gente che fa lo stesso. Che bisogna fare? Bisogna passare all'azione. Quando vanno a prelevare i soldi di chi non è lo Stato in grado di fare tasse, ti chiedono anche sopra. Ho capito, ma che bisogna fare? Qualche bombetta bisogna metterla? Anche no, nessuna bomba, assolutamente. Nessuna bomba. Con quelle cose non sono da nessuna parte. Bene, bene, uno bravo. È diventato moderato sto Bozza, no, Parenzo? Che si è calmato, gli hanno detto di calmarsi un po'. Sì, non è più la Lega di lotta, la Lega. Si è mosciato. Io sono sempre per dare i ponti dal Po e allargare le sponde. Altro che, ma io non sono moderato su quello che penso. No, per carità. No, il mio pensiero è sempre il nord, l'autonomia, il federalismo. Certo. Va bene, Bozza, buona serata, la ringrazio. Caterina, provincia di Monza. Caterina. Sì, salve. Dica. Allora, io ho capito, l'avevo già il dubbio prima, ma ho capito che sono proprio deficienti. In che senso? Nel senso che proprio non sono intelligenti, ecco, il giusto è questo, perché una persona intelligente certe cose evita di dirle. Cioè, io non andrei mai da un extracomunitario a dire, cavoli, non so come faccio sto mese, guadagno solo 1.800 euro al mese e non so come fare. Non andrei mai a dirlo se uno che so che è senza lavoro, no? Perché mi rendo conto, mi sentirei prima di tutto in colpa e poi non mi sembrerebbe intelligente. Se uno che guadagna da 6.000 o 4.000, ma anche 4.000 sono tanti, euro in su, si viene a lamentare. Sì, però ragazzi, mettiamoci d'accordo, adesso non esageriamo. Uno che fa l'assessore alla Regione Lombardia, ha ragione Cattaneo quando dice che ci vuole una distinzione, non può essere la stessa cosa che fa l'assessore alla Regione Molise. Certo. Uno fa l'assessore alla Regione Lombardia, l'assessore importante alla Regione Lombardia, non è che puoi guadagnare meno di 4.000 euro al mese, anche 6.000 sono pochi. Bene, ma già 4.000 comunque è un fior di stipendio. Ma ho capito, ma è un fior di stipendio per in media, ma non è così per uno che ha certe responsabilità. I dirigenti guadagnano da 6.000 e su, lo so benissimo. Appunto, allora. Ora, ma però di che parliamo? Dai. Il problema è che uno ha, eppure, consigliere della SEA. Quando un'azienda va male, lo so perché l'ho passata sulla mia pelle, quando un'azienda va male, la prima cosa che fa, chiama i dirigenti e dice, scusate ragazzi, in politica è un po' diverso. E questi non vanno a dire, Scusa, guarda, io adesso non so, dicono vabbè. No, protestano pure, pure nelle aziende. Fuori dai piedi. Pure nelle aziende si protesta, non è vero, che nel privato non si protesta, su. Però uno cosa fa? Prende e se ne va fuori. Ci sono, no? I sindacati, eccetera, eccetera, su. No, perché lei dà ragione, allora non ho capito. Lei io non sto dando ragione, io ho detto che ha sbagliato, ho detto che ha sbagliato e probabilmente si è rovinato la politica. Ma io non sto dicendo e ha pianto miseria non quando non era il caso. Dopodiché... Non stavo dicendo solo di lui, eh. Io parlavo di tutti, sono tanti quelli che vengono e si lamentano anche nella sua trasmissione, che si lamentano che lo stipendio non è sufficiente per quelle che sono le loro abitudini di vita. Vabbè. Io ho capito che è proprio mancanza di intelligenza, perché secondo me comunque sì. Anche se lo pensi, ma per un minimo di intelligenza dici ok, io penso che sia così, sì. Però non lo dico, no? Eh. Potrebbero evitarsela. Va bene, grazie. Chi è arrivato? Angelo! Mamma. Angelo! Buonasera, Cruciano, buonasera. Dove ti trovi, Angelo? Sto sul camion, io mi scuso per l'altra volta con Parenzo, ma è stato lui che mi ha provocato, io non volevo essere volontario. Attacca, Parenzo! Ma dai, ma lascialo, no, povero, è lì che si diverte con suo cane in giro per l'Italia, lascialo tranquillo. Vuoi parlare di politica, pare? Sei lì, in giro per l'Italia, col camion, ti mangi il tuo marito, ti vedi un po' di vino, rompi pure le palle, dai, su. Come quello mio, perché non si sente. Dai. Abbassa la radio, su, Angelo, abbassa. L'ho abbassata, è tutta abbassata. Dove ti trovi? Mi trovo direzione Roma, qua sul campo. Direzione un Roma. Un collega Cruciale è venuto, mi ha detto: come ti sei permesso alla radio di fare il nome del principale? Come il nome di Dio in vano, hai detto. Ma no, ma hai fatto benissimo. Non lo faccio mai più. No, che non lo fai mai più? Hai sbroccato, hai fatto bene. Quando uno sbrocca fa sempre bene. Madonna, ci sono lì. Allora, Cruciale, senti, devo dire una cosa. Dimmi, parliamo di politica. Ho sentito a ZF, un programma tedesco, l'onorevole Buttiglione ha detto Iago Tentacci spin Buttiglione capisci? Ah vabbè, tu non capisci il tedesco. Ma perché tu lo pari? Tu pari tedesco? Tu pari tedesco sul serio, Angelo? Ma io non sono quella razza che tu hai detto l'altra volta degli autotrasportatori, io sono diplomato, Cruciano. Ma chi ha detto che niente? Chi ha detto il contrario? No. Parenzo, hai capito, Angelo? Sa pure il tedesco. Vabbè, ma io sono uno dei più fastidi, Cruciano. Vabbè, Parenzo, che gli devi dire? No, attimo, Angelo, devi stare calmo. Parenzo, che mi devi dire? Angelo mi ha un po' rotto le balle perché telefona, si lamenta sempre, invece alla fine fa una vita, gli hai lì sul suo bel camion, mangia il suo panino, beve il suo vino, poi telefona e rompe le balle dicendo delle robe assurde. Quindi goditi questa vita in cui giri questa bellissima Italia meravigliosa. Alberto da Roma, buonasera. Buonasera, dica. Sì, ma non è da Roma, è da Sassari. Da Sassari, uguale, dica. Sì, no, chiamavo per l'assessore, per il mutuo dell'assessore Cattaneo. Sì. Ero preoccupato. No, c'è una domanda importante che gli va fatta. Cioè, quanto dura, quanti anni dura questo mutuo? E come fa lui a garantire... Ne mancano cinque. Ah, allora hai messo bene. Messo abbastanza bene, ne mancano cinque. Cinque anni non sono pochi, cioè... Appunto, perché mi domandavo come faceva poi a garantire una volta finito il mandato se non ha un reddito che gli consente di avere quel mutuo. Questa era una domanda importante. E come ha fatto la banca a darglielo? Guardi, Alberto, adesso francamente non mi pare una cosa fondamentale. Cioè, Sì, come fa a garantirlo? Una banca, se un cittadino normale va in banca a chiedere un mutuo, la banca gli chiede come può garantire. Ho capito, il mutuo innanzitutto non è di 1.300, ma è di 2006, ha detto, perché combina due mutui insieme. Ah sì, ma insomma ci saranno delle garanzie, la banca gliel'avrà dato perché è una persona conosciuta che poteva garantire certe cose, non lo so, non ho idea, ma non è questo il punto. Ma non è questo il punto adesso, Alberto, su, cioè non è il punto. Lei è appassionato del perché hanno dato un mutuo al signor Cattaneo. A me, francamente, il perché gli hanno dato non me ne può fregare meno. Cioè, mi interessa il fatto che lui abbia messo in mezzo la questione del mutuo sulla riduzione dello stipendio. Possibile riduzione dello stipendio per i consiglieri regionali. Cioè, però è una bufala. Cosa è una bufala? Perché lui è comunque in grado di restituirlo, cioè ha inventato una cosa che è una bufala, questa cosa qua che se gli abbassano la reddita non può. Ha detto che in realtà deve negoziarlo, forse addirittura può essere costretto a vendere la casa. Più di questo, che cosa deve fare? Cioè, però il punto è un altro: cioè, un politico non deve comprare una casa da 400 metri quadri. Ma perché uno non si può comprare la casa da 400 metri quadri? Ma perché? Perché sì, perché? Perché sì. perché non sarà poco? L'editometro, perché andrebbero verificati. Scusi, Alberto, i redditi dei politici. Alberto, sì? Scusi un attimo, se uno pensa di essere in grado di pagare una casa da 400 metri quadri, perché bisogna impedire a uno di comprarsi una casa da 400 metri quadri? Ma lui non pensava, cioè lì era, pensava di poterlo restituire in funzione del suo reddito. Ma è quello che gli ho detto io, pensava, pensava di avere un reddito eterno in quanto politico, che quel reddito sarebbe rimasto lo stesso. E questo è il punto, è sbagliato, infatti, che un politico pensi di avere un reddito eterno di quel genere lì. È quello che ho detto anch'io, cosa vuole che le dica? Okay, no, allora ho sentito da grazie da Alberto. Lucia da Varese, buonasera. Buonasera. Dica. E io chiamavo appunto per l'assessore Cattaneo, non sì, perché me ne freghi del suo mutuo o del suo reddito, semplicemente perché se ha un reddito è perché dovrebbe fare il suo lavoro, il suo dovere. Cosa che purtroppo non fa, perché conoscendolo di persona, sì, ha messo me, la mia famiglia, la mia azienda in una situazione di dover chiudere. Guardi, Lucia, a me dei fatti delle vostri tra lei e Cattaneo, a me non siano cose clamorose, non siano cose, non me ne può fregare di meno. Io lo dico subito. Non è che siano cose da poco, ma non lo so. Ma che cosa? Qual è la responsabilità che dà il signor Cattaneo? No, mi scusi. La responsabilità sono degli impegni che si è preso davanti a 40 giornalisti, dove ha fatto delle promesse che non ha mantenuto. Ma non lo posso sapere io. Lei come pretende che io? Ma io speravo che di poter parlare. Ma sì, vabbè, adesso cominciamo a fare il confronto tra lei e Cattaneo sul fatto che lui davanti a 40 giornalisti ha fatto delle promesse. Cara signora, qui non è mica la signora. Ma non è il discorso è che comunque ha messo delle persone nelle situazioni di dover morire di fame, mentre lui sì, morire di fame, certo. Sì, morire di fame perché ci sono pignoramenti di Equitalia. Pignoramenti di Equitalia, sono... una vicenda complessissima di cui non me ne può fregare meno, scusi, glielo dico in maniera molto franca. Pignoramenti, cose, una vicenda che io, ma scusi, lei come pretende che alle 20:51 io possa ricostruire una vicenda che riguarda alcune famiglie, il signor Cattaneo, cara ma... Lucia, abbia pazienza, non mi faccia non si può lamentare di una riduzione. Ma non di lo una so, cosa. Ma non si può lamentare non perché ha messo, come dice lei, forse quando, come, perché delle famiglie per strada, perché questa cosa qui lo dice lei, lo capisce o no che lo dice lei? Niente, Gian Pietro dalla provincia di Padova. Cruzani, buonasera. Dica. Buonasera anche a tutti gli telespettatori. Niente, sì. Io radio, quale TV? Ma io sto guardando la TV però. La TV non c'è niente, dove siamo in TV? No, ho registrato. Ha registrato. Ascolti. Cosa? Boh. Ascolti, niente, io ero partito con una semplice riflessione sul fatto che effettivamente, come lei dice, i politici vanno pagati bene perché hanno grandi responsabilità. Il problema però è un altro, è quello che dobbiamo avere la certezza che le responsabilità vengono prese e quindi non devono essere controllati sostanzialmente. Sì, però il controllo è sempre quello, le elezioni, gli organi di controllo sui soldi spesi e tutto. Che cos'è? Un badge sostanzialmente, nel senso che un badge. Come un io badge. Quando vado a lavorare timbro il mio badge. Vabbè. E sostanzialmente vado... Hanno liberato le gabbie, dai. Gian Pietro, hanno liberato le gabbie. Hanno aperto lo zoo. Angelo dalla provincia di Bari, allora, che vuole dire Angelo? Allora, Cruciani, volevo dire, tutti che se la prendono con Cattaneo, ma che volete a quel poveretto? Voi l'avete messo, perché non ci lamentavano prima, quando gli è andato a cercare il voto, tutti l'hanno votato e io voglio dare un consiglio a tutti, sì. Siccome l'abbiamo presa quel posto e ha fatto male, votate a Grillo che ce l'ha piccolino, così pure se ce lo mette Grillo non va male. Che ne sa lei che ce l'ha piccolino, scusi? Te lo dico io, ma non mi dico quando il mio ex piccolino ce l'ha, lui, quello come pare, è uguale, la stessa stagia. Quelli sono come i cinesi, cruciati, piccolini, za, come i conigli. Stupido, vedi le mani sul volante. Vedi Parenzo, vedi Grill, la stessissima cosa, gli stessi capelli, gli stessi occhi, tu, uguale. Ce l'hanno piccolo, dici tu? Sì, ce l'ha tuo padre quando l'indice della mano mia, Cruciani, l'indice della mano mia. Parenzo, che dici? No, dico attento quando ti fermi nelle piazzole, non chinarti a raccogliere le chiavi. Capito, Angelo? No, non si sente bene. Mamma mia, che dici? Cattivo, sai quando ci diceva Parenzo? Lui che dice quella la Sant'Anghè, ma tu hai avuto a fare tua mano per già la Sant'Anghè... Ma che stai col viva voce? Che stai col viva voce? Prendi il telefono che non si capisce niente. Coniglio, ci cruciamo, non ti sente bene. Ci sentiamo domani perché qua sono a rischio di verbale. Ciao, soldi non stone. Ciao Angelo, ciao domani. Ciao. A domani 18:30. Ciao.